Ci tengo i ragazzi per un viaggio senza eguali, con gli evoluti cave in quattro andiamo nei campionati. Dall'Italia all'Europa in un balzo e senza rete, con la palla che le ma la testa tra le stelle. Euroludica, Euroludica, è la radio che fa gol con la musica. Euroludica, Euroludica, è il calcio giocato in chiave ludica. Piatti tipici ai ritmi che l'anima vola. E se il calcio è poesia, noi siamo i suoi poeti. Correte in radio, i campioni siete voi. Euroludica, Euroludica, è la radio che fa con la musica. Euroludica, Euroludica, è il calcio giocato in chiave ludica. E quando il fischio suona, gioco si fa duro, noi cambiamo gioco con uno stile puro, dalle donne alle leggende, prenditi alle verità. Euroludica, 24 la partita è già qua. Euroludica, Euroludica, è la radio che fa con la musica. Euroludica, Euroludica, è il calcio giocato in chiave ludica. Signori, benvenuti a questa ennesima grande occasione per stare insieme grazie a questi eventi sportivi che capitano d'estate, quando ci riportano a quando eravamo bambini e stavamo tutti intorno al televisore con le bandiere e le trombette a festeggiare un'ipotetica vittoria dell'Italia. Benvenuti quindi alla prima puntata di Euroludica 2024, che è il programma con il quale seguiremo l'avventura dell'Italia agli europei in Germania. Europei in Germania che potrebbero fermarsi anche alla terza partita, ma noi in fondo che ce ne frega, poi eventualmente seguiremo solo la finale. Con me c'è Michela De Paola. Bentornati, salve, botte, salve, botte. Stavo per prendere a calci il microfono. Invece era solo per appunto. Esatto. Sì, sì, esatto. Ci arrivavo sui piedi, insomma, quindi ci arriverò. Ci arriverai. Bentornati a tutti. Marco Gualdi. Io prendo a pugni il microfono, eccolo. Vabbè, perché... è fastidioso nelle cuffie sta cosa. Io non lo sento però. Questo fastidio. Cioè, tu non senti niente o non senti il fastidio? Il fastidio? Vabbè, ma tu il fastidio. Non sento il fastidio. Ci sei comunque abituato. Questo microfono è che, diciamolo chiaramente, che è uno stronzo. Perché insomma, cioè, già microfono stronzo. Già uno arriva, si mette seduto e ti guarda male. E non si fa sta cosa. Non qui. Si fanno ma queste cose. Ma perché gli albanesi sono vestiti come i buffi? Cioè? Hanno un cappello bianco in testa. Non ce l'ha nessuno i cappelli. Ma che dici? Sì, sì. Michela, dove li vedi i cappelli? La tifoseria, adesso vi faccio vedere. Ah, la tifoseria, la tifoseria. Sì. Non lo so, magari è un copricapo tradizionale. La cespia, la cespia. Vedi buffi. La famosa cespia, che ovviamente è qui. Piuttosto, tra poco ci raggiungeranno anche altri personaggi, forse. Forse. Non è detto, avremo sicuramente dei collegamenti importanti, tipo insomma collegamenti tradizionali con i quali ovviamente noi siamo abituati a fare queste trasmissioni, perché cioè, noi abbiamo i nostri inviati. Anche questa sera avremmo avuto un'altra inviata, ma purtroppo non è inviata, è qui con noi in studio. Sono qui con voi perché il posto dove dovevo essere inviata Non t'hanno inviato. L'inviaggio è fallito. Esatto. C'è stato l'inviamento, sì, che ovviamente non è assolutamente partito. Ringrazio tutti quelli che già in chat ci stanno salutando e vi ricordo che oggi è una partita importante, perché è la prima partita del girone dell'Italia all'interno di questi campionati europei. Ecco. Insomma, con calma. Sì, anche qui sta andando in l'inno che è già iniziato. Che è già allo stadio. Sì, diciamo che noi eravamo un po' impreparati, questo inno è un po' basso come volume. Sì. Però, insomma, tutto sommato quando arriva la chitarra elettrica si alza. Però, però bisognerebbe rifare una versione con Suno o Udio dell'inno nazionale. Peccato che non lo fanno. Come non lo fanno? C'è il testo, sì, ma la... il testo, vabbè, certo, non riprende la musica. Ah, perché io volevo proprio farlo heavy metal, death metal, trash death metal. Metal. Beh, quello penso che se... bisognerebbe chiederlo a un musicista. Ma contro chi giochiamo noi oggi? Giochiamo contro l'Albania. Questo inno sembrava, quando inizia, sembrava quasi una cosa britannica. C'è un cartello dei tifosi albanesi che recita così: eat pasta, run pasta. Tutto molto bello. Bello, cioè loro si permettono di fare lo speed. Io no, io non. Allora sapete che il gioco del calcio, così come la regione e la politica, ci fa diventare tutti beceri e razzisti. Sì, soprattutto te, comunque sì. Sì, parla davanti al microfono, di solito. Sì, c'è, okay. c'è questo cartello, adesso c'è la pubblicità, però vi confermo che lo guardi, guarda, sta albanese, guarda, sta albanese, sta andando a mangiare cioccolata, fammi. No, no, quella è la pubblicità, non è la pubblicità, quella è la pubblicità. Io con questi, stanno buttando il nocciolo dentro la cioccolata, che sono albanesi, è vero. Va bene, va bene, va bene. Allora, intanto vi do così, giusto perché... dice che c'è, cioè, per questioni scaramantiche non va fatto, ma noi della scaramanzia non ce ne frega, giusto Gualdi? Cioè tu sei scaramantico di natura? Guarda, a volte mi sento, cioè mi sveglio la mattina, mi sento un po' scaramantico, però poi mangio e mi passa. E te passa, sì, ok. Perché mi, proprio me la sento nello stomaco, però è quello, è il vuoto. Perché tu sai che alla fine, diciamo che c'era una volta, c'era il polpo poll, noi non abbiamo più il polpo poll e quindi siamo Gemini, perché oramai quella nostra amica intelligenza artificiale che è diventata parte integrante di Runtime Radio. Il polpo Gemini. Esatto, il polpo che sappiamo Gemini. Essere un animale molto intelligente, già che Michele ha deciso di non mangiarlo più. Esatto, non mangi più il polpo. In realtà c'è un polpo congelato nel... Pensa che proprio ieri, proprio prima mi ha detto: oh, facevo il ragù di polpo durante la settimana. Non so. Però, lei, perché non c'è niente di meglio. Le buone intenzioni che passano. No, a parte le buone intenzioni, non c'è niente di meglio che cucinare il sugo, cioè girare il mestolo e chiedergli quanto fa 4 più 4. Cioè, esatto. Perché è bella. Capito? Esatto, esatto. Comunque, lo cucinerò. Ho chiesto a Gemini: congelato per sempre. Vabbè. Ma intanto oramai è congelato, quindi non è che. Tra l'altro, questa cosa mi ricorda. Allora, la formazione. Vai. C'è Scamacca che sta. Non basta, so, non avete più. Finita la formazione. Finita la formazione. Cioè, però, cioè, lo dico io. Gioca solo Scamacca. Cioè, Seferi, Broha, Ubroia, Asani, Bayrami, Ramadani. Bayrami. Asani. Tutti gli anni finiscono. Sì. Tutti gli anni. So. Basta, è finito. Non ti danno il tempo di leggere da questa formazione. No, quindi... perché la devi sapere. Esatto. La devi però sapere. L'Italia c'ha un giocatore. Abbiamo dei caschi e Castellacchi. Scamacca. Castellacchi. E questi ce l'hanno 9. Non è giusto. Esatto. Oppure la formazione quella là che stava su PES. Te la ricordi? Castolo, Balota, Yoga, Celnili, eccetera, eccetera. Oh, quelli ti ricordi, incredibile. Certo. Comunque, l'intelligenza artificiale ci dice che l'Italia è estremamente superiore all'Albania, sebbene l'Albania potrebbe rappresentare comunque un fastidio. E allora fa una sorta di graduatoria. Mr. Zero ci viene incontro e ci dice la formazione. No, non ci interessa. Non ci interessa la formazione, okay. Noi proprio l'abbiamo detta la formazione. Okay. Celnili, Balota, Yoga. Esatto, vittoria dell'Italia, probabilità alta. Pareggio, probabilità bassa. Vittoria dell'Albania, probabilità molto bassa. E Gemini anche un po' piano, insomma, nel senso, sta sgarbatezza nei confronti degli albanesi. Guarda, i bookmaker stanno tremando dopo. Allora, bookmaker è buca sorda. Stanno tremando perché adesso hanno il timore che Gemini possa sputtanargli tutte le giocate. C'è ragione. Il cane si porta la coperta. Cane si porta la coperta, che insomma fa parte un po' della. Del insomma, ancora non è arrivato nessuno dei nostri ospiti, ma non fa niente. Solo piano piano. 0 che ci sta. Gol Albania. Ma che davvero? No, oddio, non però so, potrebbe essere. Gol dell'Albania. Gol dell'Albania. È bello cominciare così a 25 secondi. Prendere un gol a 25 secondi dall'inizio della partita. Gol! Guarda, la telecamera. Noi siamo un po'. La telecamera l'hanno ribaltata praticamente. Guarda, tutti contenti gli albanesi. Ci credo, cioè, sarei contento anche io al posto loro. L'unica cosa. Stiamo tutti indietro. Chissà di chi è colpa, vediamo di chi è colpa. Poi della difesa. Ma il VAR ha controllato se è tutto a posto. Sì, c'è stato uno che teneva in gioco tutti quanti. Ma poi da là si segna. No, come no? Guarda lì, pim. No, è vietato. Vabbè, raga, io posso dire che dobbiamo andare a dormire, secondo me. No, già, vabbè, tu, il principio tuo è qualsiasi cosa è andare a dormire. Comunque, questa cosa ci lascia molto perplessi. Infatti, io penso. Chi ha segnato? Scottmar. non è un nome albanese, no. Scottmar. Di Marco, è colpa di Di Marco se hanno fatto gol. Cioè, c'è già una sostituzione. E Mister Zero sta dicendo che infatti Di Marco è abbastanza vergognoso. Indignato. Non l'ha neanche detto, e questi gli hanno fatto fa gol. Guardi, cosa sappiamo dell'Albania? Allora, posso leggere? Perché purtroppo devo leggere. Non hai memorizzato. Ma non poi ce leggi? Come no? Ce leggo. Guarda, io. L'Albania è considerata la nomea, ok, di un paese in via di sviluppo. Cioè, io sta cosa la trovo offensivissima. Vabbè. Cioè, definire un paese in via è terribile. Comunque, in via è bruttissimo. Infatti si è incazzata pure il cane. Vedi? Secondo le metodologie del Fondo Monetario Internazionale e delle Nazioni Unite, siete in via di sviluppo. Non lo diciamo noi. L'Albania non è un paese ricco per gli standard europei e sta attualmente compiendo la difficile transizione verso un nuovo genere. E lo fa costruendo lager per l'Italia, esatto. Questo è, sta cambiando sesso. Allora, tutta l'Albania ha deciso di cambiare sesso. È una bella transizione, noi la caldeggiamo. La proviamo. La caduta del regime politico comunista del 90, cosa che ti ha lasciato un po' orfano, vero? Mi è dispiaciuto. Ma tanto non è mai stato un vero comunismo, per cui. E infatti è venuto più tardi, e in modo più caotico rispetto agli altri paesi dell'Europa dell'Est, ed è stata caratterizzata da un massiccio esodo di rifugiati politici e migranti economici verso Italia e Grecia. Strano, chi se lo sarebbe mai creduto? Ma infatti, ovviamente, come economia ricordiamo che loro producono grano, mais e barbabietole da zucchero. È quello, ragazzi. Ma non c'è Luca Toni? No, ma Luca Toni sarà morto. Povero Luca Toni. Povero Luca Toni, cioè sarà in pensione, penso, Luca Toni, insomma. Vabbè, comunque dai. Ah, neanche Del Piero ci sta. Inizia bene. Meno male che avevamo detto la scaramanzia, e giustamente Jamie ci ha detto probabilità molto bassa. Richiedigliela adesso. Vediamo esatto. Cosa risponde. Esatto. Visto che l'Italia sta perdendo 1-0 dopo 25 secondi di gioco, mi rifai la previsione? Vediamo e che tu dici. Pensa, caro Marco, che l'Albania è incredibile, ma dal punto di vista della tradizione come nazionale di calcio non è che c'ha tutta questa grande tradizione. Addirittura la sua più alta espressione, diciamo il suo più grande risultato è stato quello di essersi qualificati per la prima volta a Euro 2016 nel 2016. Pensa te, quello è stato proprio il... Adesso però possono vantare anche di aver segnato l'Italia dopo 25 secondi, esatto. Dall'inizio, cioè. Esatto. E addirittura la partecipazione all'Europa Nation League, che insomma è una competizione recente che ancora la gente hanno fatto giusto per far giocare l'Albania, esatto. E per far due spicci, esatto. Ma noi caro Marco, poi vediamo, insomma, tanto noi seguiamo la partita, però sapete che siamo qua anche per fare arte, per dare informazione, per fare altro ci siamo praticamente imposti di contattare degli artisti delle varie nazioni con le quali noi giochiamo per permettergli, insomma, di dare la possibilità di dare visibilità a dei brani che magari sono i loro brani di punta, anche perché insomma magari un cantante o in questo caso una cantante albanese potrebbe avere delle difficoltà, insomma, a far penetrare il proprio brano in Italia, no? Penetrare è importante. Poi sì, diciamo che noi abbiamo dato un po' di spazio a questo, al culturismo straniero, perché bisogna anche valorizzare quelle che sono le forme d'arte del posto, visto che noi siamo una trasmissione radio, una canzone, avevamo pensato di mostrare una delle mostre pittoriche, però effettivamente era un po' complicato. Quindi siamo stati un po' pavidi e siamo ricaduti nell'audio, e quindi abbiamo deciso di sponsorizzare un cantante, un artismo. In questo caso un cantante o una cantante? Io sono una cantante. Questo artismo. E questo caso è sfociato nella cantante, che è una giovane promessa dell'albanese, mm-hmm, che si chiama Emilia Botashkakwar. No, è difficile da pronunciare. Chiamiamola, esatto, Emilia. È già un incidente del romano. Ma lei si fa chiamare Emilia. No, la chiamiamo Emilia. Adesso. Emilia, che praticamente lei è brava, molto brava, perché fa questa musica molto futuristica. questa musica molto folcloristica, però anche moderna. E quindi andiamo a presentare questo, posso presentarlo io, lo faccio io, okay. Questo brano appunto di Emilia che si chiama Spaco. Diciamo brava, che brava, veramente brava, brava, brava, brava, incredibile. Salutiamo poi anche Luca S che è arrivato insieme a Mister Zero. Diciamo che poi queste sono tematiche care agli, insomma, diciamo, ai Balcani in generale, no? Sì, sì, beh, questa, cioè, di cosa parla questa, questa storia? No, parla di tutte le cose belle dell'Albania, quindi le montagne, i laghi, la storia piena di castelli, tutte queste cose qua. Non so se si è capito dal testo, però insomma, penso sia molto chiaro. Insomma. L'affetto soprattutto. Tanto affetto. Tanto affetto anche, no, tanto affetto per lo straniero che comunque va nel suo, cioè, sul territorio albanese e viene sempre accolto con un sorriso. Esatto, esatto. Infatti, sì. Luca S ti fa Slovenia comunque, ti fa Slovenia. Che non c'è però, cioè. No, non c'è, no, per sì. Questo è facile così ti fare la Slovenia, anch'io tifo il Giappone, to, ecco così, esatto, esatto, vabbè, niente, vabbè, ha segnato l'Italia, ha pareggiato subito, vabbè, ma tu mi spoileri, quanto stiamo indietro? 1-1, ha segnato l'Italia, momento 20 secondi, questa, tu sappi che questa cosa fa sprofondare nella depressione tutti gli albanesi, perché secondo me per quei 10 minuti ci hanno creduto. Vabbè, però possono sempre dire di aver segnato l'Italia dopo 25 secondi. E quindi di gioco, domani, se io chiedo quali sono i più importanti risultati dell'Albania nella la sua storia, nel 2016 il gol all'Italia dopo 25 secondi. Euro 2024, cioè, vabbè, vabbè, ha segnato l'Italia, anche un gol, insomma. Un colpo stupido, diciamo, sì, la verità, perché stava, vabbè, non è che quello che hanno fatto loro. No, proprio è bello che ti fa capire diciamo, l'elemento tecnico delle due compagini. Esatto, è esatto. La palla gli ha quasi sbattuto in testa, però l'angolata, dai, l'angolata. Io tra l'altro vorrei far notare anche il portiere è rimasto angolato, molto angolato. Io ho letto qualche notizia proprio in merito a questa Euro 2024, no? Però le ignorate. No, no, le ho lette, sono importanti. Praticamente ci sono state già delle partite. Tu sai che ci sono state già delle partite. Sì, ieri ha giocato la scala. Okay. No, non te lo dico io, te lo dico io perché non ti vedo informato. Ieri ha giocato, ovviamente, essendo il paese partecipante, ha fatto la gara di inaugurazione. La Germania con la Scozia ha vinto 5-1. Ah, sì, sì. Subito i titoli dei giornali a dire che Germania è la candidata, la prima candidata, insomma, a vincere l'Europeo. Però tu sai perché lo hanno scritto? Perché l'hanno chiesto a Gemini. Può essere. Quindi che ha risposto essere. Prima candidata. Allora, successivamente c'è stata la partita dell'Ungheria contro la Svizzera e la Svizzera ha vinto 3-1. I titoli immediatamente dopo dicevano che la Svizzera è una seria candidata alla vittoria degli europei. Sempre Gemini, Gemini. Oggi c'è stata la vittoria di 3-0 della Spagna sulla Croazia. Ricordate che entrambe fanno parte del nostro girone. La Spagna è stata nominata come possibile candidata alle vittorie. Comunque l'allenatore dell'Albania si chiama Salvino. Salvino? Salvino. Svino. Salvino. Walter Svino, il cugino albanese di Walter. Esatto. Comunque Luca ci dice che non è possibile che non ci sia neanche England, Danimarca e Serbia. Non c'è l'Inghilterra? No, non lo so se non sono qualificate. Football is coming home. Addirittura non si è qualificato in Inghilterra? No, non lo sappiamo. Probabilmente l'hanno esclusa perché non è più Europa. No, è vera, strozzata, non è possibile. Beh, ma perché nella Scozia vorrebbe restare. Se ci fosse stato. Sarebbe stato peggio se ci fosse stato Israele, insomma. Proprio ci vorrebbe poteva essere. Poteva succedere, sì, se si qualificava, ma insomma, non è che sono molto nelle condizioni di potersi qualificare, diciamo, da questo punto di vista. E va bene, volevo invece dirvi, no, questo è importante perché chiaramente se l'Italia vince questa sera, Marco, i titoli Italia probabilmente è la candidata e è la favorita serie candidata come vittoria alla vittoria finale degli europei, naturalmente. Tra l'altro noi ricordiamo che siamo i campioni europei in carica. Siamo i campioni dell'Europa, siamo noi. Quindi siamo noi, i campioni dell'Europa siamo noi. Bello il guardaline. Football is coming Rome. Esatto. Insomma, lì io sai che non l'hanno mai presa tanto bene questa cosa. Devo dire che la Slovenia e gli europei con Danimarca e Inghilterra. Ah no, scusa, dicevo che la Slovenia è agli europei con Danimarca, Inghilterra e Serbia. Cioè giocano per conto loro, non ho capito. Se fanno un campionato tutto loro. O stando dentro un girone. Mi sembra una scelta giusta, quella di farsi un campionato tutto loro. Inghilterra, Germania e Spagna sono quelli più quotati per la vittoria, non secondo Gemini ovviamente. E Google Chrome, questa è. Secondo le notizie. Però vediamo la partita, commentiamo un po' la partita, vediamo gente che passa pallone, brava a passare il pallone. Cioè, effettivamente gente vestita di blu contro gente vestita di rosso. No, però poi fanno gol, ce lo dicono dalla chat. Sì, infatti ci spoiler in continuazione le cose. No, non l'abbiamo visto in diretta. No, io l'ho visto in diretta. E allora noi perché stiamo indietro? Perché noi siamo indietro. Perché lui sta più avanti. Guarda, perché loro stanno guardando dal televisore e non lo stiamo guardando lo streaming. Tu l'hai visto in diretta con loro? È possibile. Perché io so. Io so io e tu non sei. Esatto. Voi non siete un cazzo. Comunque, lo sai, Marco, qual è il paese con più bunker al mondo? La Svizzera. Ma perché tu parli solo con Marco? Che mi ha invitato a fare? E anch'io lo pensavo che fosse. No, perché questa notizia era una cosa che lui può capire. E anch'io pensavo che fosse la Svizzera. Invece è l'Albania. Ah sì? Addirittura l'Albania ha praticamente tutto il territorio costellato di migliaia e migliaia di bunker, perché l'ex dittatore comunista, che era un po' paranoico. Aspetta, fermo, ma funzionanti? Aspetta, ora ti dico. L'ex dittatore comunista, che era un po' paranoico, c'aveva paura che ci sarebbe stata questa invasione da non so chi, forse l'Italia magari, ha disseminato praticamente tutto il paese di questi bunker che oggi sono strutture ricettive o mete turistiche, fondamentalmente. Ok, quindi non ti c'è poi una scolarizzazione. Mamma mia, grande azione di qualcuno che ha fatto qualcosa. Che ha fatto qualcosa ed è quasi stato gol. Però no, in realtà no. Esatto. Intanto io comunque sto cercando di capire questa tecnologia, di cercare di memorizzare. Mamma mia, quanto se l'è sfangata. Di memorizzare i tatuaggi dei giocatori così li riconosco. No, perché se no io non per me sono tutti uguali. Tu devi considerare che oggi se non c'è un tatuaggio non puoi essere un giocatore professionista, non viene riconosciuto. No, cioè, lì si fanno il codice a barre, esatto. Tu praticamente quando entri, che ne so, al centro sportivo quando inizia la stagione, 7 contro attenzione, gol dell'Italia. Attenzione, attenzione, attenzione. Eccolo. Mi gol. Sa che questa volta finisce tanto a poco, c'ho questa sensazione. Luca, fallo. Aspetta, ho sbagliato. Ha segnato Chiesa forse. Fallo io, Luca, perché Carlo Chiesa. Qua hanno fatto il gol. Abbiamo bevuto una semplicissima Peroni. Ma perché che abbiamo detto di strano? Stiamo dando anche delle notizie. Si picchia. Il girone, parlava del girone. Ma cosa avete bevuto prima della diretta? Che lo compro anch'io. Ah, che ne so, qual è il girone? Il girone di chi? Dell'Inghilterra. Ah, ma che ne so, ma noi non siamo informati. Ma non ci fregano degli altri. Della Danimarca. Allora, cioè, noi voi pensate tanto... che noi siamo qua per fare una trasmissione sugli europei? No, non avete capito. Cioè, allora, il tempo è prezioso, perché mettersi a studiare tutti quanti, i gironi, quando poi in realtà a noi ci basta sapere quelle tre partite che facciamo noi e basta. Esatto, poi, esatto. Quello, del primo tempo me ne vado, perché non mi... Bravo, no, parla. Marco, che mi dici? Vabbè, sono le paranoie di Michela. Michela, che ci dici? Vi dico che l'Albania è diventata una ricchissima, cioè ricchissima, una golosissima per quanto riguarda l'Italia e l'Europa, rotta per le vacanze estive, perché praticamente c'è delle spiagge stupende e dicevano che costava poco, ma in realtà non è vero, sì, che costa più tanto poco, no infatti, ma poi tra l'altro questa cosa c'era anche del mare, delle cose, delle mete turistiche, c'era anche nella canzone, se tu l'avessi ascoltata l'avessi sentita queste cose, ma tu non l'ascolti. Ma io non parlo l'albanese, e questo è sbagliato, questa è una cosa che non va bene. Comunque il gol è stato convalidato dal VAR, perché evidentemente c'era qualche problema. Il portiere dell'Albania è Strakosha, ha segnato Barella, ex portiere della Lazio. Come ti chiami Barella? No, va bene. Poi dici perché te fanno parlare. Come ti chiami Barella? Insulti i giocatori. Vabbè, e se tu incontri uno che si chiama Carozzella, che fai? Ti chiamano Carozzella. No, ciao! Soprattutto se sta in carrozzella. Sta in carrozzella. Esatto. Oddio, esatto. No, con voi non si può fare. Non si può fare. Che degeneriamo. Comunque stavo dicendo, noi degeneriamo, tu insulti la gente e poi noi degeneriamo. Che il portiere dell'Albania si chiama Strakosha, ed è l'ex portiere della Lazio. Che tra l'altro, diciamo, non è incolpevole su questo gol. Che si è buttato tipo 20 minuti dopo. Forse secondo me. Si è ricordato. Cioè hanno pagato. Ma gioca ancora con la Lazio? No, perché no, non gioca più? Due o tre anni è che così bravo. No, infatti, era quando se n'è andato, sono dispiaciuti tutti. È vero? C'è stato un dispiacere generalizzato, diciamo. Ma perché te ne vai, Strago? Esatto. Ma alla fine, Donnarumma si è diplomato. No. Sai che questa è una bella domanda? Okay. Se poi glielo chiediamo a Gemini. Sì, ma Donnarumma se è poi laureato, lei ti risponderà: ma che gli frega tu di laureato? Se è diplomato o laureato? Che doveva fare? Diplomato. Se doveva diplomare. Ah, diplomato. Che okay. Laureato? Cioè, aveva 17 laureato. Anni. Laureato, ma che gli frega quello? Non sa mettere tre parole in croce. Ecco, altri insulti gratuiti, giustamente. Già hai dato dello storpio a un poveraccio. Mo questo pure in ignorante. Cioè, io basta. È ignorante. Ma tu, Marco, conosci Michela? Tu, sì. Michela, conosci degli albanesi? Sì, c'ho dei clienti albanesi. Ok, che macchina c'ha l'albanese? Dipende. Generalmente. Qual è il mito automobilistico degli albanesi? Dell'est, in generale. No. Dell'albanesi in particolare. C'hanno la motorino e c'hanno il furgone, c'hanno il furgone e fanno. Vabbè, ma voi non li sentite gli albanesi che parlano sempre dei Mercedesi? No. Allora, io vedo un sacco di gag fatte dagli albanesi stessi che se auto prendono in giro su sta cosa dei Mercedesi. Mercedes, come dice Mister Zero. Mercedesi loro dicono. Comunque, in generale, infatti questo lo si vede da tantissimi video, se tu vai in Albania, l'Albania è praticamente piena all'80% dei Mercedes. Questo perché? Perché quando è crollato il famoso regime comunista di cui sopra, tutti gli albanesi che erano all'estero, soprattutto quelli in Germania, che sono tornati in patria, sono tornati con queste Mercedes che erano considerate auto di lusso. E quindi da lì in poi lo status symbol dell'albanese è la Mercedes. No, ma nessuno dei miei clienti c'ha la Mercedes. No, tu, Marco, ce lo conosci uno che c'ha la Mercedes? No, mio zio, ma non è albanese. questo è quello che dice lui. Infatti, cioè, esatto. A questo punto comincio a avere dei dubbi pure io. Esatto, esatto. E c'è fai un bene. Un altro calcio di rigore. Calcio di rigore, esatto. Calcio di rigore. Questo arbitro che dà calci di rigore come se non ci fosse casaccio, un domani, casaccio. Veramente devastante. Spiegaci il calcio di rigore, Michela. Ancora? No, ancora che vedeva spiegare il no, calcio di rigore. L'altra volta ci hai spiegato il calcio. Attenzione, ammonito preferito un giocatore Mamma dell'Italia. Mia, brutto, io brutto. Ho spiegato tutto nella mia vita, però è no, stato il calcio d'angolo ci hai spiegato. Questo, allora, però adesso Michela ci devi spiegare che cosa c'è scritto sul cartellino giallo. C'è perché scritto... lo fa vedere al giocatore, il giocatore lo guarda, ma sopra quel cartellino ci sarà scritto, no, non c'è scritto niente, cosa? No, non c'è scritto, scritto niente. Niente. Il colore è importante. Una volta c'è scritto attento a te. A un'edizione di un mondiale mi pare che ci hanno scritto la parola fair play, una cosa completamente inutile, perché insomma. Pellegrini è stato Beh, d'altronde ma Pellegrini è giocatore della Roma, appunto. Che strano che Pellegrini è stato ammonito al 20° del primo tempo. Vedi che lo so, le conosco le cose. D'altronde i sozzoni li riconosci tutti. Comunque dicevamo questa questione del calcio di rigore. Spiegaci il calcio di rigore, perché tu l'altro anno ci hai spiegato il calcio d'angolo. No, io vi ho spiegato tutto. Vabbè, però calcio di rigore ormai non mi ricordo più. Ricordatelo, prova a ricordare. Ma devo andare a chiedere a Google oppure no, quello che sai. Noi okay. Vogliamo sentire da te le tue. Perché stanno a Dortmund, Strauss, ma non stanno in Francia, no. Stanno in Germania. Ok. Stanno in Germania. Stanno nella famosa Francia tedesca, però. Sì, esatto, Strauss. Quella del 42 mi sembra giusto. Proprio quella, esatto. Allora, il calcio d'angolo. Che va no, il calcio di rigore. Il calcio di rigore. Allora, il calcio di rigore è anche detto massima punizione. Pure? Cioè, sì, è proprio la punizione per eccellenza. Cioè, dopo di quello c'è. Loro ti mettono il calciatore davanti alla porta. Loro ti mettono chi loro? Cioè, chi lo dice? Chi lo fa? Cioè, mamma mia, attenzione. Questo è quasi gioco pericoloso. Intanto sentite i motorini perché fa il caldo, ragazzi. Ma macello qua. Allora, il calcio di rigore viene fatto perché uno fa rigore. Che cos'è rigore? Prendi a calci qualcun altro, prendi a calci un altro giocatore e quindi l'arbitro si incazza e ti dice: adesso ti faccio fare il calcio di rigore. Ti fa vedere ti faccio fare. E a volte ti fa vedere il cartellino su cui c'è scritto pezzo del merda. Ti è scritto rigore, cartellino con rigore. Cartellino con rigore, che vuol dire che devi sta buono, non devi prendere a calci la. Ah, quindi sul cartellino c'è scritto state buono. Buoni. Quindi mette praticamente nelle condizioni la squadra avversaria di poter lanciare il più vicino possibile alla porta la palla, ma non dentro, perché è da più vicino possibile. Cioè, il problema al di là della cosa che non si è capita niente, però sono proprio i termini. Che vuol dire lanciare? Innanzitutto tirare. Sala, se un giocatore che è in attacco subisce un fallo dentro l'area di rigore, qual è l'area di rigore? È quella quadrata vicino alla porta. Ce ne sono due idee. Quella rettangolare vicino alla porta e il secondo rettangolo vicino alla porta. No, è tutta l'area, tutto il rettangolo grande, è l'area tutto di rigore. Infatti è il secondo rettangolo, lo vedi che c'è un rettangolo. No, tu hai detto vicino alla porta, tu hai detto quello. Invece no. Il rettangolo piccolo e il rettangolo grande. Nel rettangolo grande, se tu entri nel rettangolo grande e ti fanno un fallo. E ti fanno un fallo. L'arbitro ferma il gioco e dà un calcio di rigore. Il calcio di rigore consiste nel mettere la palla nel dischetto degli 11 metri e lanciarla. C'è un giocatore attaccante e il portiere, solo loro possono. È un duello. È tipo un duello praticamente. Se c'entra qualcun altro ti fanno il rigore. No, se c'entra qualcun altro mia, se prima che tu colpisci la palla si ripete, è tutto da ripetere. Okay. E anche il portiere non può muoversi dalla linea di porta fino a che tu non hai calciato, se no si ripete anche in quel caso. Sì, infatti prima tu lo sapevi, no? Cioè era chiaro, era quello che hai spiegato tu. Era chiarissimo. E soprattutto come l'ho spiegato io si capiva benissimo. Esatto. Soprattutto quando ci hai detto che si lancia la palla. Si lancia la palla. Ma ci abbiamo così era per ripetere. Oppure sentiremo per sempre questa canzone. No, perché questa no, canzone basta. Oggi le canzoni sono finite, c'era questa qui e basta. Ah, mi potevi chiedere la playlist della facevo. Ah, ok, andavamo veramente a cercare delle canzoni albanesi. Hai ragione, per la prossima puntata ci organizziamo meglio. Okay. Però potresti mettere l'inizio del secondo tempo la sigla. Quella io l'ho usata come sigla finale la tua. Ah, che bello. Capito? Perché la tua è più artistica, c'è più artismo. C'è più artismo, cioè. Esatto. E invece c'è un'altra curiosità del mondo albanese che voglio condividere con voi, che è veramente importante, che è praticamente la vendetta di sangue. Cioè, noi ci abbiamo scherzato sulla cosa di ammazzo famiglia, spacco bottiglia, ammazzo famiglia, ma in realtà in Albania esiste un'antica tradizione, che ovviamente oggi è considerata completamente illegale, giustamente, ma questo non significa che sia passata, insomma, in sordina, ma è ancora una pratica ancora abbastanza attiva, che se per qualche ragione tu ammazzi un membro della mia famiglia, io prima o poi, che sia oggi, che sia domani, che sia fra 20 anni o 30 anni, ammazzerò un membro della tua famiglia. E questa cosa può perpetuarsi per tantissimo tempo, tant'è che chi viene ovviamente sottoposto a questo atto di vendetta è costretto a vivere nascosto e segregato praticamente per tutta la vita, compresi i bambini. La cosa brutta. Pezzo, c'era una puntata di Law and Order, vittime speciali, che aveva come protagonista la vendetta di sangue albanese. No, qui tra l'altro, cioè, l'informazione mi dice che questa cosa si fa ancora in delle zone rurali, ma in realtà io ho visto un video recentemente proprio su YouTube fatto da uno youtuber italiano, dove viene dimostrato che ancora oggi anche a Tirana, insomma, questa cosa non è poi così insolita, però ovviamente è una pratica totalmente illegale, cioè chiaro, insomma, si tratta comunque di un omicidio promesso, eh? Che dite, che dite? Beh, secondo me promette un omicidio è un po' poetico. C'è della poesia in il... C'è della poesia. Ti ammazzo famiglia. Tipo c'hai presente Romeo e Giulietta? Sì, sì. No, le famiglie che se... che se volevano uccidere. Vabbè, lì c'erano un po' altre ragioni, no? Lo so, però ragioni politiche, insomma, cioè, restano queste faide familiari, cioè, familiari, per cui il problema è che Romeo e Giulietta era il 1300, invece questi oggi sono il 24esimo secolo. Beh, ma ci avremmo bisogno di un ritorno a Medioevo, no? Beh, un altro po', insomma. Lo dicono tutti. Tutti chi? Dici. Ma secondo voi l'aborto è legale in Albania? Non ne ho la più pallida idea. Sì, ma solo se praticato con una colta. Esatto, quindi lì fai il doppio servizio, cioè... Esatto. Comunque è una domanda che io non mi sarei posto onestamente, perché poi sai che Gualdi ci fa le battute brutte e quindi insomma però diciamo che non so quanto è il livello, considera che comunque l'Albania come paese di sviluppo attenzione ambisce sempre ad entrare nell'Unione Europea. Luca dice: noi avevamo l'attenuante del delitto d'onore fino a ieri, non sarei tanto a vantarmi come paese progresso sociale. Ma infatti no? Siamo un paese progresso. Ma infatti io non è che sto di che noi siamo meglio di loro, io sto parlando di loro, parlando tra l'altro il diritto d'onore faceva parte ancora del codice giuridico fino a poco tempo fa, insomma. Certo, poi dopo non so quanto fosse più ancora applicabile, però insomma ci sta come tipo di discorso, diciamo che è un po' diverso, no? Nel senso del fatto che comunque commettere un omicidio e promettere che fra un anno, fra 20 anni, fra 50 anni, che tu stai in Germania, in Francia, in Albania, comunque io ammazzerò un membro della tua famiglia, è un po' diverso. Però insomma con questo non voglio dire che, cioè, perché penso veramente in generale che come tipo di situazione, come tipo di società, tante società hanno fatto un grosso progresso dal punto di vista anche sociale, e l'Albania è un paese che stiamo scoprendo adesso, perché veramente è stato isolato per tantissimo tempo, soprattutto durante il regime. Poi, come tante di queste realtà, magari sotto regime erano tutte un po' compresse, non significa che non succedevano le cose, ma magari erano tutte un po' compresse, c'era un forte controllo. Quando questo forte controllo è venuto meno, probabilmente si sono un po' scatenati, diciamo, ha ritorto il tappo alla pentola, è successo un po' di tutto. Che ci dicono dal campo, Gualdi? Sta diventando noiosa questa la partita. Perché, cioè, non ci stanno più rigori, niente, proprio zero. Stanno più i calci. In mezzo al cerchio e se passano la palla. Eh beh, come il cartone animato dei Simpson, no? Sì. Che c'era praticamente, cioè, che l'Albania non riesce a prendere la palla, questo diciamo che loro sono soddisfatti, cioè hanno segnato l'Italia dopo 25 secondi all'inizio della partita. Io penso che sarei soddisfatto, potrei chiuderla qui. Esatto, se fosse attenzione Sanchez, guarda, se la chiudono qua cross al centro, aiuto, attenzione, ah, gli ha preso il piede. Ha preso il pin. Ma non gli ha fatto niente l'arbitro, scusa. Bella sforbiciata inutile, complimenti. Non gli ha fatto niente, perché come, cioè, l'arbitro non dà fallo, fa qualcosa, cioè, quindi picchia, dà del totò, sì, li mette in punizione. Sì, bravo. Beh sì, questo era un po' tipo mezzo rigore, eh. No, rigore no, perché mi sa che era fuori area. Guarda, gli ha preso la gamba. Gli è spostata la gamba. Vabbè, era almeno un fallo, insomma. Bella questa rovesciata che ha cercato di decapitare il giocatore. Esatto. Ma non c'è riuscito. Più che una rovesciata, sembra una mossa di calcio di rigore qua. Che gli ha dato? De Kung Fu, niente, gli ha dato niente. Calcio dei Kung Fu, sì. Il Kung Fu che ricordiamo, il film, com'era quel film, quello degli anni 20? Anni 20. Quello che faceva il Kung Fu. Jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Quella è un'altra cosa. Chi era? Mister Moto, il suo jiu-jitsu. Dopo posso chiedere una cosa alla regia? Certo. Ti capita, ci porti un po' di acqua? Va bene. Comunque, perché io sono legata da Marco che mi ostacola. Adesso ti vado a prendere l'acqua. Adesso, se voi intrattenete il pubblico, io... Adesso praticamente il portiere sta... Il portiere di chi? Portiere degli dell'Albania. Altri. Portiere degli altri. Dell'Albania. Si chiama Stracoscia il portiere dell'Albania. Stracoscia. E quello dell'Italia? Sottocoscia. Donnarumma, che lo sappiamo se sta diplomato. Che lo sappiamo, dopo glielo chiediamo. Commento dal bordo campo. Italia galvanizzata dal gol del 2-1, ha perso il controllo del gioco, cerca di attaccare e mantenere il possesso palla. Albania difende con una difesa che regge. A voi studio. Cane di merda. Scusate, e purtroppo... Si maltrattano cani. Sì. Michela fa tutta la precisina. Cani buoni, difendiamo i cani. Ma cani di merda, devi morire. Devi stare zitta, taglio la gola. Basta, ecco, taglia la gola. Quanta violenza in così pochi minuti, però. E niente, poi nel frattempo, vabbè, il bordo campo, insomma, cioè abbiamo avuto la testimonianza. E... Perché sta fermo? Ti passa la palla, il tempo passa, cioè ci annoiamo. Passa la palla, bevo passa così, palla. Ma attacco, tanto Marco non beve. Prendi la birra tu. Prendi la birra. Bello lasciare il silenzio radiofonico, proprio. Comunque. Allora, sì. Comunque. Tutto molto silenzioso. Radio. Noi lo studio è studio professionale questo. Facciamo radio da oramai più di 10 anni e lo facciamo con una competenza. Ecco, questo. La professione. Lo volevo dire e niente, siccome che è giunto il momento di ripercorrere ancora un'ennesima tradizione che fa parte, insomma, della nostra esistenza come trasmissione, quindi euroludica. Hanno tirato, hanno preso il palo. E c'è un giocatore dell'Italia morto per terra. Sta morendo. Morirà in diretta. Esatto. Va bene, io provo a fare un collegamento, vediamo sì, intanto se che ci riusciamo. Il collegamento, volevo dire che questo giocatore qua c'ha un tatuaggio con una donna sul collo. Quindi... Ti piace il tatuaggio? No, non mi piace. Non ti piace? In realtà no, non mi piace quel tatuaggio. Allora, però... proviamo questo collegamento, pronto? Allo? Pronto? Pronto, chi è? Pronto, chi parla? Allora, noi siamo Runtime Radio, non so se si ricorda di noi. Voi. Sì, certo, come no, è molto bello Runtime Radio. Ogni volta che mi chiamo mi succede una disgrazia, però va bene. Aie. Scusate, sto facendo molte tradizioni italiane perché sapete che a me piace tanto l'Italia, no? E mi sto grattando il sottopalla in questo momento perché è molto interessante, molto... Buonasera. Chico Cecchi. Buonasera, signor Dieter, giusto? Ricordo bene? Sì, sono Dieter. Ce lo ricordiamo, giusto? Ciao, Dieter! Anche il nome si ricorda. Sì, anche il nome, mi ricordo poco, mi deve aver pazienza. L'Italia mi sa che ha fatto di nuovo gol. Ha fatto gol l'Italia, è contento, Dieter? Sì, visto che ha fatto gol l'Italia, sono molto contento, però adesso io mi sento che mi arrivi spiga addosso in questo momento. Non ha fatto gol l'Italia. No, allora, perché con Michele è difficile, non riesce neanche a capire quello che succede in campo. No, che risultano tutti. Prego, era un replay comunque, prego Dieter, ci a me dicendo. Sembrava in ogni caso io non riesco, che problemi c'è, potete dirmi che mi calate, cioè chi vede il numero soprattutto, sì, perché... sì. Beh, no, il numero sei adesso, Dieter ce l'ha sei? Dato lei il numero, facciamo un excursus. Dieter, ve lo ricordiamo, è quell'austriaco tifoso dell'Italia che per seguire l'Italia purtroppo ha avuto tante incombenze, tanti inconvenienti, compreso all'ultimo mondiale dove poi è rimasto chiuso dentro un bagno in Qatar, tra l'altro non rendendosi conto che l'Italia neanche c'era, giusto? Va bene, però insomma non è che bisogna dire proprio tutto, insomma ci possiamo anche fermare su piccoli problemi che ho avuto. Va bene. Non c'è bisogno di ricordare tutto quanto. Va bene, va bene. Anche perché sono traumi, magari non se la prego. Ma adesso lei è in Germania a seguire l'Italia? Io sono, sì, sono vicino a Germania. Come vicino? Sì, vicino in Germania. Vicino in Germania, sto seguendo partita da casa. Ah, quindi è in Austria. Casa molto grande mia. Io adesso ho casa molto, molto grande. Sì. Grandissima. Sì. Ho anche il giardino. Sì. Ho il giardino. Sì. Vabbè, che ce ne frega, scusi. Infatti. Pensavo no, che... volevo solo dire che io non adesso ho casa, non come prima. Ah, ok, non è più nello stadio, non è più nei... mi avete detto, cioè, raccontato che ha avuto problemi per sua casa, per sua famiglia, per sua macchina, per il suo lavoro, per tutto, tutti vabbè. Ho casa, sto vicino a Germania, ho nel terrazzo. Sì, e vede dal terrazzo? Vedo dal terrazzo la partita. Quindi è veramente vicino alla Germania, insomma. Non sto proprio in Albania, no, sto vicino Albania. No, non ho detto Albania, ho detto Germania. Germania c'entra l'Albania. L'Albania. Ah, perché sto vicino a Germania, certo. Ma quindi la sta vedendo la partita da casa sua, però. Sì. Vicino alla Germania. Sto vicino a Germania e vedo la partita. Ma che significa vicino alla Germania? Scusi, Dieter. Non so proprio in Germania, non posso dire dove sono. Non posso dire dove sono. Ah, ok, perché la stanno cercando. Prego anche di cancellare il numero, distruggere il numero, perché di non divulgare il numero. No, non l'abbiamo mai detto. Diciamo, ma se devi essere nascosto, perché ti sei tenuto il numero? Io non ho dato numero, voi avete chiamato, mi hanno dato numero. È il numero che c'avevi prima. Non sono Dieter, sono Franz. Ah, sei Franz. Sei Fritz. Ah, Fritz. Ciao, Franz. Fritz. Fritz è meglio. Franz. No, perfetto. Franz Fritz. Come Franz? Vabbè, la ringrazio. Io pensavo che lei era a seguire la partita. Volevamo, insomma. No, ma io so qua. Da terrazzo, perché da vicino in Germania. vedo perché io ho grandi case, ho casa, vabbè, ho grandi televisioni molto grandi, saranno meno 55-60 pollici, vabbè. A giudicare, vedo la partita. Ma lei è in prigione, scusi, non ho capito. No, non proprio in prigione, però ecco, io devo vedere partite da terrazzo. Dal terrazzo, va bene, ok, quindi come minimo c'è una DASPO, questo è sicuro, insomma. No, dal terrazzo, perché televisione era vicino, ce l'ho vicino a casa. Vabbè, di fronte, quindi io dal terrazzo vedo televisione. Ok, comunque... saranno 50, grazie, per fortuna saranno 55-60 pollici, perché... ti vedo bene poi. Certo. Beh, sì, certo. Certo, importante questo. Comunque l'Italia che mia televisione ha problemi, sia cose ieri, ma io ho ordinato da Amazon 150 pollici. Addirittura, ma quindi ha fatto pure sì. I soldi, insomma. Ma... tanti soldi. Non vogliamo sapere altro, Dieter, comunque. Tanti soldi. Ricordiamo che lei è stato cacciato dalla sua famiglia e rinnegato perché faceva il tifo per l'Italia, giusto? Sì, adesso vengo a lavare il bagno, sì, va bene, sì. abbiamo capito tante cose. Scusate, adesso devo va bene. Bella interazione di va bene, questo è stato un momento simpatico, ma allo stesso tempo anche un po' triste, diciamo la verità. Dieter, insomma, non è più il Dieter di una volta, che insomma che imperversava in tutti gli stadi d'Europa e del dovremmo mondo. Dovremmo trovare un altro personaggio che vive all'interno, esatto, degli stadi. Sì. Intanto l'Italia attacca. Secondo me lo troveremo. Secondo già me lo vivere all'interno di casa degli altri, secondo me. Questo. Sì. E pulire i bagni, quella pulire è la cosa più importante. Insomma. Comunque 2-1 Italia-Albania, siamo al 40°. E la cosa più interessante di questa partita è questo gol, è questa inquadratura, l'intervista di Dieter, anzi sì, di Franz. Fritz Franz. No, comunque io ci tengo sempre, insomma, a ricordare Dieter, che ricordiamo che lui è stato rinnegato e cacciato dalla sua famiglia perché lui d'austriaco in realtà tifava Italia, non si è mai capito perché, tutto sommato. Però è tratto anche dalla storia vera questa cosa. È una storia assolutamente vera. Assolutamente vera, e ci teniamo insomma a questo. Michele, nel frattempo tu cosa hai percepito della partita? Niente. Ovviamente niente. Nel senso che non è successo niente. Si sono lanciati la palla a vicenda. Diciamo che dice tirare la palla al massimo. Sono perché... tirati la palla a vicenda. Allora scusa, guarda Michele, te lo spiego così te entra un po'. Ci sono due tipi. Uno è il passaggio, uno è il lancio e l'altro è il tiro. Allora okay. Se la sono passata. Passata, ok. O lanciare, cioè, perché tu lanci un avversario più in distanza. Tiro è quando tiri in porta. Esatto. Okay. Perché tu quando prima hai detto rigore, l'uno lancia la palla. Cioè non è che tu prendi la palla con le mani e la lanci. Importa, beh, non io lo farei. Non è pallavolo. Che tu lo faresti, guarda. Io farei senz'altro, però ovviamente. Anzi, tu mezzo a campo a un certo punto prenderesti la palla in mano e andresti di basta, io mo tiro così. Questo la palla è mia e l'ho portata io e me la porto a casa, così non gioca nessuno. No, che, questo non l'ho mai fatto. Che poi è un po' come la storia dell'utero, praticamente. L'utero è mio, lo gestisco io. Grande, è così che funziona. Funziona, giustamente. È giusto. Io devo aggiornare, purtroppo, perché no, volevo sapere se qualcuno di voi ha mai fatto questa cosa infame di portare la palla a giocare con gli amici e poi dopo se l'è portata via. Mentre gli amici vogliono continuare a giocare. Guarda, io non l'ho mai fatto, però l'ho visto fare, devo dire. Dei traumi proprio. Marco, tu l'hai fatto? Ma traumi, io ho visto quello che l'ha fatto, che ha preso le botte, perché, cioè, nel senso, mo c'è rotto il cazzo, gli hanno menato pure, quindi, insomma, e poi gli hanno ridato la palla. Ma è giusto tutto sommato, perché non è che tu se puoi, cresci anche così, tu, esatto, tu non è che puoi pretendere di giocare o di essere all'altezza degli altri solo perché hai il pallone lo condividi con gli altri, se lo vuoi fare, se non lo vuoi fare te ne vai a fanculo, insomma. Ed è quello che succede quando tu giochi, che ne so, con Italia-Albania. Se l'Albania porta il pallone potrebbero essere problemi, insomma, subito come... tu sentono dei cani dall'altra parte del quartiere che abbaiano. Scozia deve, però tanto a voi non ve ne frega niente, no, cari ascoltatori. Io adesso ti stacco la lingua. Ok. Comunque, Spalletti. Spalletti è nervoso, poi c'è Svino. Svino è. Svino è. L'altro Svino. L'altro Svino. Si chiama Svino. Certo, sono convinto che si chiama Svino. E Svino, e poi c'è un biondo gorbaffetto del coso che. Cioè, praticamente. Se lo sono praticamente caricato e portato via. Se lo sono ingroppato, ecco. Adesso c'è un calcio di. Questo è un calcio di come sta messo questo? Non lo so. Secondo me è un calcio di rigore questo. Pure questo, sì. Un calcio d'angolo. Un calcio. No, non è un calcio d'angolo. Un calcio. Che calcio è? Calcio potabile. Comunque no, l'azione è finita male, è finita molto fuori, non ci è piaciuta. Insomma, la partita sta un po' diventando un po' noiosa, sì. Secondo me no, l'Italia non vuole infierire e questo permetterà ovviamente all'Albania di pareggiare, esatto, alla fine. Al 25esimo del recupero del secondo. Vi do l'ultima curiosità sull'Albania che ho trovato, che si tratta del Festival del Ballo dell'Orso. Cioè già il titolo, diciamo, Madonna, non promette bene, diciamo così. Perché no? In alcune zone rurali dell'Albania si celebra ancora il Festival del Ballo dell'Orso, in cui gli orsi vengono catturati, incatenati e costretti a ballare al suono dei tamburi. Ah, vabbè, dai, perché chissà che mi pensavo, insomma. Questa pratica controversa viene attualmente contestata, ma trova queste contestazioni trovano una forte opposizione da parte di tradizionalisti che ritengono che sia giusto farlo. e quindi insomma se andate in Albania non dovete perdervi il ballo dell'orso. Esatto. E quando invece in Scozia io non mi sono perso il lancio del tronco, quello mi è piaciuto molto. Esatto. Però mentre che il tronco è un essere inanimato, insomma l'orso non è bello che prendete l'orso e lo fate ballare in catedrale, insomma, così come non è bello prendere un John Travolta e fargli ballare il ballo del qua. Esatto. Lui ci ha preso i soldi dal festival, ha preso i soldi da quelli delle scarpe, perché 3 minuti di recupero al primo tempo. Ok, alla fine del primo tempo facciamo sentire la canzone di Marco Gualdi, però guarda che comunque in ogni caso l'orso viene pagato, Sì? Sì, vengono date 100-200 mila rupie ungheresi. Non so che tipo di banconote abbiano, non credo che abbiano l'euro. Non ne ho idea. No, no, perché no, stanno in prova. No, l'euro non ce l'hanno. Oh, no, c'hanno l'ungherio. Cioè, vabbè, comunque viene pagato profumatamente. L'albanerio. Cioè, vengono pagati profumatamente, anche se ovviamente poi magari non sanno cosa farne dei soldi. E quindi niente. Però insomma, la buona volontà ce la mettono. Ok, Michela, raccontaci la partita, che io faccio una cosa, poi dopo, tra il primo e il secondo tempo sentiamo la canzone di Marco Gualdi, che aveva concepito come sigla, però mi piace, la canzone è bella, è venuta bene, però è troppo seria, troppo... Che è l'orso, che è? Stava praticamente, si è mangiato un gol. Chi? Il 14, il 14 ha lanciato, e il 10 gli è andata male. È bello chiamarli per numeri, insomma, come Auschwitz, stessa cosa. Che cazzo ne so, non me li ricordo i nomi. Bello, bello, cioè, fantastico. Ma perché questo c'ha una faccia tatuata sul collo? Cioè, perché a me sono queste le domande serie del calcio. Sì, lo stavo dicendo anch'io, c'ha sta faccia tatuata sul collo. Allora, comunque, in Albania c'è il Lech albanese. Ah, sarà Melek, infatti. No, Lech. No, non è quello. No, vabbè. No, c'è solo il Lech. Comunque, abbiamo. Cos'è? È una moneta. Ah, la moneta. 3.000 lek. 3.000 lek. Quant'è un euro? 341 lek. Allora, adesso te lo dico. Aspetta, vediamo che cosa ci dice. Attenzione, qui c'è una gangbang con un albanese, poverino, è riuscito a sopravvivere, però. Che era stato incastrato da due giocatori. Svino si è incazzato. Sfiro? Svino. Svino. Vedi, Svino lo ricordo, ormai lo conosco, siamo amici. Allora. Il Lech è stato introdotto nel 1926 ed è ancora in uso oggi, anche se ha subito alcune modifiche nel corso degli anni. Cioè, che tipo di modifiche? Non lo so, cioè, Wikipedia ne parla, Small World ne parla, però nessuno ci dice quant'è l'atto di conversione. Che è di Gemini? Gemini sto chiedendo. Vabbè, non capisci un cazzo sto Gemini. Però intanto Gianluigi Donnarumma si è diplomato, Michela, sentato che lo volevi sapere. Oh, grazie al cielo. Si è diplomato. Ci avrà messo 4 anni per a scuola, in scuola superiore. Vabbè, ragioneria, non lo so. Liceo scientifico, qualsiasi classico. Qualsiasi cosa, basta che ti dia il diploma. Ah sì. Questo per passare di classe, che non so che gli serve. No, perché quando hanno fatto gli scorsi europei non si voleva diplomare. No, non solo non si è voluto diplomare. Non, no. È voluto, non è quando gli scorsi europei, praticamente. Allora è iniziata. Lui non solo non si è presentato agli esami, non ha avvisato, e quindi dentro la scuola sono tutti rimasti lì ad aspettare lui, compreso l'ultimo ragazzo che doveva rimanere come testimone. E fino a che ovviamente a un certo punto hanno, e quindi la scuola si è un po' incazzata, diciamo, questa cosa, ma lui se n'è assolutamente strafottuto, gettando loro contro diverse migliaia di euro così che aveva in tasca, come arma contundente. Nel frattempo, al 15 giugno del 2024, un Lech albanese vale 0,010 euro. Vabbè, c'è un centesimo, vale, no, 0,010 centesimo. Esatto, quindi no, 0010 10 centesimi. 010 e 010 è un centesimo. 10 centesimi. No, non è 10 centesimi. 0,010. No, se era 0,10 era 10 centesimi. Quindi è meno di... Aspetta, no, cioè 0,01 è un centesimo. Sì. Comunque poi dipende pure dai servizi di conversione. Allora, ci sono due pentapasteri che stanno facendo sicuramente stanno dicendo come è andata la partita, però sono veramente spaventosi questi due, questi sono due giornalisti della Rai. Ma di chi stai a parlare, scusa? Questi che stanno su replay. Aspetta, in questo momento stavo convertendo. Sono i commentatori. Fine primo tempo. Fine primo tempo, ok. Queste le statistiche. Allora, noi ci riposiamo l'ugola e ci ascoltiamo la canzone di Marco Gualdi intitolata Mister Vero. Non è questa. Quel momento, mano destra sopra il cuore, mi si smuove il sentimento, l'ansia ora è il mio motore. Fuori il bandierone, in cantina da 4 anni, attaccato sul balcone, spero di non fare danni. Se devo essere sincero, io del calcio sono a seca, da domani mister vero, fino ad oggi non mi frega. Non conosco il fuorigioco, non parliamo dei rigori, poi del VAR io ne so poco, e che so i supplementari, ma non voglio essere escluso. Pure io voglio tifare, anche se sono confuso, la bandiera sventolare. Io non voglio essere escluso, c'è la partita da guardare, dentro casa resto chiuso, perché devo partecipare. Che bella canzone, guarda, è quasi cantautoriale, oserei dire quasi cantautoriale. Comunque, se volete mandarci audio, messaggi per completare il primo tempo, fatelo pure. Fatelo pure. Scrive Simone Pizzi e io aggiungo, ve prego. Addirittura. Vuoi il mio commento del primo tempo? Sì, dai, intanto vai col commento del primo tempo. È stata una partita molto interessante, perché ho visto praticamente passare la palla tante volte, mm-hmm. E quindi questo mi ha fatto pensare che mentre la gente va in fabbrica e lavora per €1.000 al mese e questi per fare sta cazzata. Vabbè, ma basta con sta retorica sui calciatori, l'abbiamo capito. Cioè che vabbè, ma io volevo fare una cosa. Volevi fare una cosa politica. Volevo rompere, insomma, gli schemi. Gli schemi, è la cosa più detta del mondo, quella che i calciatori guadagnano tanti soldi. E quindi stavo pensando che anch'io potrei passare la palla da un posto a un altro. Mamma mia, paura. Guadagnare milioni di... Cioè, perché le donne non lo fanno? No, lo fanno, ma si chiama YouPorn. Allora... No, vabbè, raga, io mi dissocio. Ma veramente le palle, cioè, nel senso, più che le passano le palle, le rompono a volte le palle. Però, insomma, diciamo che... Io ti ho domandato delle news, Michela, se vuoi leggere a raffica. Leggi le news. Queste vanno lette a raffica, però, Va bene. Vai sulle news. De roba... Per favore, perché veramente... allora, al microfono possibilmente. Ultima ora, gli spalti dello stadio sono stati invasi da un gruppo di alpaca in fuga da uno zoo locale. Si teme per la sicurezza dei calciatori. Hanno alpacato almeno. Abbiamo appena ricevuto una soffiata. Il CT dell'Albania starebbe preparando una formazione a base di soli portieri. Strategia ardita o disperazione pura? Flash, l'arbitro della partita è stato sostituito all'ultimo minuto da un sosia di Elvis Presley. Si prevedono interruzioni per esibizioni canore. Incredibile, un tifoso italiano ha tentato di introdurre nello stadio una mongolfiera a forma di mozzarella. Motivi ancora sconosciuti. Durante l'inno nazionale albanese un gruppo di piccioni viaggiatori ha formato in cielo la scritta Forza Italia. Mistero o sabotaggio? Notizia bomba! Il pallone ufficiale della partita è stato rubato da un gruppo di bambini che lo stanno usando per una partita di calcio balilla in un bar vicino. Il VAR, momentaneamente fuori uso a causa di un'invasione di formiche nel centro di controllo, si attende l'intervento di un disinfestatore. Abbiamo appena scoperto che l'allenatore dell'Italia ha un gemello segreto che fa il pizzaiolo a Napoli. Coincidenze? Noi non crediamo. Il pullman della squadra albanese è rimasto bloccato nel traffico a causa di una parata di trattori d'epoca. Si prevede un ritardo di almeno 2 ore. In esclusiva, il capitano dell'Italia ha appena annunciato di volersi ritirare dal calcio per dedicarsi alla coltivazione di bonsai. Una scelta coraggiosa. Eh sì, guarda che coltivare il bonsai è una grande balla. Ma veramente la qualità dell'ironia di questa roba è incredibile. Gemini? Mamma mia, sembrano le battute dei Gualdi. No, forse sono meglio queste cose che battute dei Gualdi. Ma l'acqua mi è stata portata solo via. Perché tu non le capisci. Sì. Allora, intanto io non le capisco perché non le voglio capire. Non le vuoi capire. Intanto Puccio non ci raggiungerà perché mi sa che si è avuto problemi in famiglia. E noi lo salutiamo, ci raccogliamo, insomma. Ciao Puccio. Un minuto di silenzio faccio, no? Minuto di silenzio. C'è di parlaggio a sottovoce, però. Va bene. Così, minuto. E quindi, Michela, adesso io ti elenco una serie di eventi culturali che si fanno in Albania. Potrebbero essere interessanti. Tu che dici? Per l'estate, eventi per l'estate. Per l'estate, eventualmente dovesse venire la voglia di andare in Albania a farve sparare. No. Prendervi una vendetta di sangue. Ma no, ma tantissima gente sta andando in Albania. Allora, in Albania io sinceramente ci vorrei andare, devo dire la verità, perché è un paese che mi ha sempre affascinato, perché veramente conosco zero. E si sta organizzando molto per raccogliere questa quantità di turisti che ultimamente si stanno riversando, perché un po' dopo la crisi economica, insomma, fare una vacanza in posti belli dove c'è il mare bello e che magari non costa tantissimo, anche se so che l'Albania ultimamente è aumentata come costo, potrebbe sempre essere meno dell'Italia. Sempre meno dell'Italia sicuramente, insomma. Però sicuramente è un posto da esplorare. Poi c'ha sicuramente le sue spigolature, altrimenti sai, è un po' come la questione di alcune cose che diventano delle nomee e quindi uno alla fine se le porta dietro un po' per tante ragioni. Però alla fine tra queste ragioni è che alcune nomee magari comunque un po' sono anche vere, insomma, diciamo così. Però io ci andrei in Albania. Infatti vi dico tutto quello che succede in Albania. tutti quelli, gli eventi che non potete perdere. Festival di danza isopolifonica, questa antica forma di canto e danza tradizionale albanese caratterizzata da melodie complesse e armonie dissonanti, è celebrata in vari festival in tutto il paese. I partecipanti indossano costumi tradizionali e si esibiscono in danze e rituali che risalgono a secoli fa. Si apre una nuova finestra. Che vuol dire aprire una nuova finestra? Che si apre una nuova finestra, tu. Vabbè. Quando c'è quella vecchia. Apre una nuova finestra, sì, è una cosa tecnica, perché sta pure sotto. Carnevale di Corsa, questo carnevale che si tiene ogni anno a di Corsa. Di Corsa o di Corsa? Corsa. Corsa. È noto per le sue maschere elaborate e costumi colorati. I partecipanti sfilano per le strade, ballano e cantano, creando un'atmosfera festosa e unica. Il Festival della Torre di Berat. Questo festival celebra la storia e la cultura di Berat, una città patrimonio dell'UNESCO, nota per le sue case ottomane e le chiese bizantine. Durante il festival si svolgono spettacoli di musica e danza tradizionali, mostre d'arte e artigianato e degustazioni di prodotti locali. Il film il Festival dei Film di Tirana, questo festival cinematografico internazionale. Cinematografo. Che si tiene ogni anno a Tirana, presenta una selezione di film provenienti da tutto il mondo, con un'attenzione particolare ai film albanesi e balcanici. Infatti io l'ho già sentito questo festival. Il festival offre anche workshop, seminari e incontri con registi e attori. Il Festival della Birra di Tirana, celebra la crescente cultura della birra artigianale in Albania, con degustazioni di birre locali e internazionali, musica dal vivo, cibo di strada e attività per famiglie. Guardi. Questi sono solo alcuni esempi degli eventi culturali unici e bizzarri che si possono trovare in Albania. Tra cui non dimenticare, la ricerca di un'esperienza culturale diversa e autentica, l'Albania è sicuramente un paese da considerare. Per cui non dimenticare appunto il già citato ballo dell'orso, insomma, che, perché no, insomma, è un evento a modo suo, è un evento culturale pure quello, fa come i tori di Pamplona, esatto. Purtroppo, regà, queste cose ci sono, no? Poi uno può anche contestarle, trovarle, essere in disaccordo e trovarle aberranti e quindi non andare a vederle, però ci stanno, c'è anche chi va a vederle. Vabbè, però piano piano le c'è anche chi va a vederle, le vieteranno, come adesso la corrida non è più legale in Spagna. Come no? Da no. Quando? Da una settimana. Ah sì? Legale. Sì. Quindi c'è stato... questa secondo me è una di quelle cose che comunque... infatti il governo ha votato a destra, cioè le elezioni hanno portato a tanti voti a destra. Comunque se c'è anche chi va a vedere Pamplona, va a vedere il ballo dell'orso per vedere magari il toro che incorna qualche passante o l'orso che sbrana, che poi ricordiamo e ci sta pure quello, eh. Ricordiamoci che diciamo che il ballo dell'orso è brutto, ma sicuramente è anche meglio del ballo del qua tutto sì, sommato, sì. No? Cioè, nel senso, è pure una questione di cultura, veramente. Diciamo così. Non ci hanno al ballo. Non so, Michela, se è d'accordo con questa. Non sono d'accordo, non meglio d'accordo. Il ballo del qua per quanto noioso e brutto sia, che il ballo dell'orso. Tu l'hai mai visto il ballo dell'orso? Guarda che no, ballo. Non lo voglio guarda vedere. Guarda che ballo bene dell'orso. Gli orsi, eh. No, no, cioè, stanno lì, fanno tutti. Sono bravi, sono. Come fanno? Movimenti bravi. Io quando ero ragazzino c'è stato un gioco, non era un videogioco, era un gioco elettromeccanico dove tu stavi sul cavallo, anzi no, quello del cavallo era quello che i cowboy e gli indiani, che poi sta cosa che bisogna sparare agli indiani, ma cioè, mi sembra giusto. Siamo cresciuti veramente con una cultura sbagliata, e invece c'era sempre con la pistola, con la pistoletta, col fucile, anzi, e tu eri il cacciatore, passava l'orso, tu sparavi all'orso, l'orso se tu lo beccavi e tornava indietro. Però moriva mai sto orso, fondamentalmente. Poverino. Quindi. Ma non era vero l'orso. Poverino. Ma era un pupazzo. Vabbè, ma scusa, ma sai i traumi che c'hai a fare una cosa? Ma nessun trauma, cioè. Perché deve essere trauma? Sta sperando un pupazzo di legno, cioè. Trauma deve essere, insomma. No, diciamo che è diseducativo più quello che sparavi ai cowboy. Cioè, comincia secondo... il secondo tempo, sta ci per dice cominciare. Mister Zero. Sì, vabbè, stai tranquillo, Mister Zero, che non ci vuole dietro nessuno. Comunque è sempre più facile incontrare un orso che un indiano, quindi tutto sommato. Eh sì. Sai perché? Perché li hanno ammazzati tutti, cioè, col gioco degli indiani. È così. Io a questo punto, prima di, insomma, per dare il tempo anche al secondo tempo di partire, vi faccio sentire una canzone albanese vera. Ok, così almeno sì, si intitola, però di no, dopo te lo dico. Dopo te lo dico. Sto mignolo. Pensi che una Z, in effetti. Z. Che poi vorrei far notare è uguale a quella dei Waldi, eh. Juste loupé. Sente la qualità del master, che è sicuramente migliore, però insomma la canzone non è poi così tanto dissimile da quella che, insomma, ufficiale che ci abbiamo noi, quindi insomma, vabbè. Ha comunque un ritornello più invitante, quella di prima, insomma. Sì, esatto, cioè, è anche più calzante. Sì. Qui noi non sappiamo cosa dice questa canzone, ci potrebbe anche insultare, no? Farebbero anche bene. Sì, io sono d'accordo con il fatto di essere insultati, però. Cioè, comunque un giocatore dell'Italia che ha tentato di spaccarsi un ginocchio da solo, lanciando, come dice Michela, tirando la gamba. Tirando, lei è tutto tirare per Michela. Fantastico. Comunque bello, è ricominciato il secondo tempo. È ricominciato il secondo tempo, benissimo. Michela se n'è andata. Michela si è schifata da questo primo tempo. Spero che ci porti da bere, Michela, in qualche modo. Anche Coca-Cola va bene. Anche la birra calda. Perché praticamente io ho portato una bottiglia d'acqua da un litro e mezzo e si è bevuta tutta. Quindi, perché dovete considerare che la generosità e il senso di condivisione è una cosa importante in questa casa. E vabbè, quindi insomma, Marco, secondo te chi vince? Non lo so, io sono democristiano come Gemini, quindi probabilità Italia alta, pareggio bassa e molto bassa Albania. Albania molto bassa, vabbè sì, d'altronde. Vi ricordo, insomma, che se volete mandare anche dei messaggi audio, poi sta canzone finisce così, bello, complimenti. Sì, usate Udio, guarda. Cioè, ve do sto consiglio, usate Udio. Esatto, fatelo sullo strumentale, ciò e poi non, contare sopra. Ciò non nulla vieta di dire che magari l'hanno fatto sul serio, non è che. Era usato meglio allora. Prendete la versione. Nel frattempo mi sono morsicato la lingua, ragazzi. Siete contenti? Ma sì, ma perché no? Sì. Nel frattempo l'Italia sta cercando di farsi segnare, però non gli abbiamo detto, non ci riesce perché si sono messi d'accordo, dicevano adesso devo segnare io, io non ci riesco a far segnare. Sono sbaragati due giocatori, attenzione a chi affibbia. Di chi sei figlio, gli dicevano, di chi sei figlio. Vieni su, alzati, ammonito in italiano, gli mostra il cartellino con su scritto troverai l'amore della tua vita, che sono come i biscotti della fortuna, i cartellini gialli, quindi ognuno c'ha una scritta diversa. Ecco, troverai l'amore della tua vita. Ma attenzione, perché c'è una punizione al limite dell'area per l'Albania, e noi sappiamo che è molto pericolosa l'Albania. Sì, l'Albania è storicamente riconosciuta, cioè proprio la chiamano per paesi, per le punizioni dal limite dall'aria, infatti è devastante. Potrebbe esserci il pareggio dell'Albania, attenzione. E hanno ammonito un albanese, così a sbavo. No, italiano era. No, adesso hanno ammonito un albanese. Ah, perché comunque ha sputato a terra, anche lui era ammonito. Via, ah. Via, eccolo là. Ma che cazzo? Beh, c'è un po' la faccia da stronzo, io non so chi sia, però. Si chiama Broia, quindi che fai nella vita, Broia? Vabbè, perché il giocatore deve dire la punizione sta in posizione da cagarella, cioè... Sono 5 minuti che sta in posizione da cagarella. È così perché è stanco. È stanco. Stanco. Ed è rientrato, ma è già stanco. Posso dire che la maglia del portiere dell'Italia è abbastanza brutta. Cioè, sembra il Brasile. Cioè, non so. Vabbè, comunque, per far risaltare meglio il viso di Donnarumma. Seguiamo questo calcio di punizione al minuto 51esimo del niente, secondo. Non è arrivata neanche, non c'è andato neanche vicino. Aspetta, diciamo. Che la messa ancora tirando, magari lo segna. No, ha preso un fatto. Ha preso la barriera e infatti è morto il giocatore. È morto il giocatore, che sapete, adesso si interrompe il gioco se viene colpita la parte della testa. Perché no, questi tiri possono produrre un ematoma cerebrale. Si chiama il famoso tiro di Okuto. Quello che tu prendi la pallonata in faccia e dopo 3 giorni muori. Esatto, poi continui a giocare tranquillamente e poi muori. E lui invece è morto subito. Ma vediamo il ralenti, come si diceva una volta. Oh, mamma mia, l'ha preso proprio di osso, di fontanella. Secondo me si è rotta la fontanella. Che cos'è la fontanella? La fontanella è quello spacco che c'è tra i due ossi del cranio che poi si salda quando diventi grande. Ho capito. È fatto apposta. Se no poi dopo il cranio è troppo piccolo. Si è rialzato. E allora l'arbitro gli dice: ti devi accomodare fuori perché... Ti devi spaventare anche. Ti devi spaventare. Ma io non ho capito, a Michela dove è andata? È andata al bagno. Al bagno. Si è bevuto 1,5 litri d'acqua e mo se la sta pisciando tutta qua. Giustamente. Mi sembra anche il minimo, direi, insomma. Mentre viene messo del ghiaccio sulla fontanella, vediamo infatti che il rischio che possa fuoriuscire materia cerebrale è altissima. Ogni anno muoiono decine di giocatori a causa di punizioni tirate troppo basse. Questo è un problema... di questo sport. Eh sì, sul quale stanno cercando di sensibilizzare la gente, proprio perché le punizioni è meglio tirarle alte piuttosto che o basse. Tant'è che infatti a volte i giocatori saltano per farle passare sotto, in modo da dare un po' di vantaggio agli avversari. No, perché mo c'è la tecnica del coccodrillo. Caro Gualdi, vedi, non sei come fa? Praticamente la barriera si compone di, una volta si componeva di 5 uomini messi ovviamente in, insomma, uno accanto all'altro, stretti a braccetto, e adesso se ne mettono 4 con un uomo invece sdraiato per terra vicino alle gambe del resto della barriera, in modo da non lasciare spazi per far passare la palla, perché giustamente, come dici te, uno... Sì, questo l'ho vista, ma non l'ho vista così spesso, perché pensavo molto pacchiana come... No, ultimamente si usa abbastanza spesso il coccodrillo, sì, è abbastanza bruttina come cosa da vedere, però si fa, insomma. Sì, un po' come, non so, non mi viene in mente niente, ma di esempio. È come la catapulta infernale. È poi la catapulta infernale, sì, questo qui. Cioè, oppure, che ne so, mettere un giocatore attaccato alla porta sulla traversa per impedire che prendi i gol sotto il set, insomma, non lo so, cioè, quelle cose. Sai che poi... scamotaggi strani, che al limite del legale, non lo so. Non lo so, però... Poi è legale. Però, diciamo che per i più giovani sta nascendo anche in Italia la Kings League. La Kings League è una cosa, diciamo, è una sorta di versione alternativa del calcio, nata dagli influencer fondamentalmente, quindi è nata su YouTube questa cosa. Deve essere bellissimo. Però non è male, perché è una sorta di versione futuristica dello sport. Non so se tu c'hai presente quei videogiochi degli sport che erano ambientati nel futuro, no? Con tutte le regole strane o cose del genere. E la Kings League è un po' una sorta di spettacolarizzazione e videogamizzazione del gioco del calcio. Innanzitutto non è calcio, ma è calcio a 8. E questo viene fatto in degli stadi accuratamente preparati, con luci, cose, segnali luminosi, insomma. E praticamente le regole sono di base, sono le regole del calcio a 8 e quindi del calcio, però poi alla fine, all'inizio si inizia con 1 contro 1, poi 2 contro 2, poi 3 contro 3, fino ad arrivare ovviamente, la palla non viene selezionata tramite attenzione, Bella azione. La palla non viene data all'inizio tramite monetina, ma viene fatta cadere dall'alto, e quindi due giocatori che partono dalla porta opposta devono correre verso la palla e conquistarla, ovviamente. E poi durante la partita ci possono essere gli interventi, tipo con le carte. Tu puoi giocarti delle carte che possono essere, che ne so, il penalty, oppure un giocatore in meno per l'altra squadra, oppure il gol del top player che vale doppio. Insomma, tutta una serie di regole che rendono le partite fino all'ultimo sempre molto avvincenti. E devo dire che ci sono ancora in corso, credo, i mondiali della la Coppa del Mondo della Kings League, dove l'Italia è uscita agli ottavi, la squadra dei Totti. E devo dire che è figo, cioè, è chiaro che non lo so se lo sostituirei con il calcio, però tutto sommato secondo me per i più giovani questa Kings League in qualche maniera secondo me influenzerà il mondo del calcio in qualche maniera. Ti suggerisco di vedere qualche short, qualcosa, magari non deve vedete anche il calcio, però sarebbe bello se mettessero le carte del tipo, che ne so, peschi la carta mentre stai giocando, adesso simula infortunio, e qui tu il giocatore si butta per terra e deve simulare l'infortunio. Intanto ormai lo fanno in ogni caso, quindi sarebbe figo anche fosse scenografica la cosa, no? Nella Kings League le carte sono più esecutive, cioè nel senso hanno proprio un effetto diretto proprio sulla partita. Quindi buttare per terra e fingi il malore, ma che c'entra? Cioè, lì c'è l'arbitro, mica sa che tu hai tirato fuori che è finta. A che serve sta cosa? Non serve a niente. Per spettacolarizzare. Ma no, ma invece, tipo, che ne so, c'hai due minuti se per segnare, se tu segni il tuo gol vale doppio. Cioè, è figo, cioè, questo ha un effetto importante sulla partita. E tu immagina che adesso, che ne so, Spalletti da fuori la carta cagotto, fa vedere il cagotto agli avversari. Cioè, poi c'è il president penalty, aia, che praticamente è il calcio di rigore, però tirato dal presidente, non da uno dei giocatori della squadra. Ma che puttanata! No, ma è figo invece. Guarda che è figo. Cioè, è chiaro che è una buffona. Allora io voglio la carta cagotto, cioè non c'è sta ma cazzo. Non esiste, tu ho le capito, carte sono hanno capito un effetto sulla partita, non il cagotto ha anche un effetto sulla partita, ma non esiste una carta che fa venire il cagotto, cioè, perché te la devi prendere insieme all'assativo, ma cioè, vaffanculo, che cazzo, cioè allora lì c'è la, cioè se io tiro fuori la carta cagotto uno di loro è costretto a prendere l'assativo e andare de corpo entro i 30 minuti successivi. Che ci sta, intanto il cane si è indignato perché non gli piace questa cosa della carta cagotto, chiaramente. E comunque la Kings League è una figata, ed è nata anche la Kings League in Italia, insomma, quindi ha fatto gol. Seguirò chi? L'Italia ha fatto gol? No, dicono per strada. Ah sì? No, se lo dicono per strada non è vero, non fidarti mai della strada. Io non vedo gol dell'Italia. Oppure questo è gol, Scusate il silenzio, ma scusate, gol, no, ci stavamo rifocillando. Attenzione, scusate il silenzio, attenzione, ma stavamo bevendo la birra. Colpi gobbi, ci sono colpi di attenzione, gol, no, niente. Ci hanno fatto una previsione, ma è sbagliata, è un po' precognition. La birra fresca. Com'era il film quello dei coso lì, quello che ha fatto, cioè, faceva Top Gun, Tom Cruise. Quello che loro facevano, riavvolgeva il tempo ogni giorno. No, che riavvolgeva il tempo, che loro c'avevano questa macchina che precogniva gli precogniva. Ah, coso? Minori di report. Minori di report. Ma io posso rientrare? Volendo, dai. Sì, non lo so, te ne sei andata per mezz'ora, insomma, noi volevamo. Dovevo andare a studiare la legge del gol, adesso vi dico. Ah, sei andata a studiare la legge del gol. La legge del gol, la dura legge del gol. La dura legge del gol. E ho studiato. Ci dica. E nel frattempo ho preso le birre per voi. Ho studiato e ho scoperto che la dura legge del gol, fai un gran bel gioco, però se non aspetta, già te la sei dimenticata. Sì, insomma, ma sono dimenticata perché la devo imparare a memoria. Che figura di merda, guarda, che tristezza. Però se vuoi la vado a cercare, la metto. No, ah sì, pure, però intanto te la dico io, aspetta. Dimmela tu, aspetta. Ma soltanto se segna l'Italia, se no. La dura delle legge del gol fai un grave gioco, però se non hai difesa gli altri segnano e poi vincono. Loro stanno chiusi, ma alla prima opportunità salgono subito e la buttano dentro a noi. Anche allora, questo. Io devo dire che le canzoni de Max Pezzali fanno schifo. Sì. Leggerle fanno ancora più schifo, devo dire. Sì. Quindi, però io sono andata a studiare, perché dovevo studiare, insomma. Cioè, sei andata al cesso, insomma. Sì, devo studiare. Vabbè, ma succede anche questo in Runtime Radio, la web radio geek. Qualcuno ha giocato la carta che costa. Lo stavamo insomma dicendo, appunto, insomma, che funziona così. Secondo te come sta andando questa partita? Tra l'altro, la dura legge del gol dura 5 minuti, ragazzi. Cioè, non è un po' troppo la canzone. È quasi il tempo di recupero medio di una partita. Pizzi, secondo che te cazzo hai detto? Recupero meglio di una partita. Pizzi, che secondo te sì, come sta andando? Quarto d'ora. Abbiamo solo del quarto d'ora. Io devo dire che ho seguito tutto tranne che la partita, perché ovviamente fare regia, mettere qua, insomma, cercare puoi di. Puoi dire col cazzo che vuoi. Sì, sì, esatto. Infatti, quello stavo dicendo. Secondo me c'è una indiscutibile preponderanza di inneschi dal punto di vista della costruzione del gioco dal basso, ecco, secondo me questo è. Ma che sta a dire? È stata la svolta le diagonali, da Pizzi. Non so se hai visto le diagonali, cioè, hai le ripartenze. Hai ragione, ma hai che ragione. Vuol dire il gioco dal basso? Le diagonali, il gioco dal basso devi documentare. Cioè, il gioco dal basso è il fondamento del gioco moderno. Esatto. Cioè, oggi si parte tutto dal basso. Esatto, ripartenze, Michele. Le ripartenze dal basso. Comunque la prossima volta mi trovo un posto dove andare tipo lontano. Perché scusa, ma impara, no? Scusa. No, non voglio imparare. Insegnati. Ecco il gol. Niente, non ecco il gol. Ma alla luce di. Alla luce di questo, vi volevo dire che è successo in Australia che. Oddio, ma che c'entra l'Australia con gli europei? È successo in Australia che i migrati albanesi hanno spezzato le gambe. Spaghetti davanti ai migrati italiani. Che hanno spezzato? Che hanno fatto? Gli spaghetti. Ammazza! Che hanno lanciati addosso. Che dispetto! E hanno cantato spacco spaghetti, ammazzo amichetti. Esatto. Esatto, cioè tu immagina che hanno speso i soldi per comprare spaghetti, hanno spezzati e tirati addosso agli italiani. Sì. Gli italiani hanno detto: Gli italiani l'hanno corcati de botte, però va bene. Sì, hanno anche detto all'inizio: Hanno detto e poi hanno detto: Menamo, yeah! E poi. Sì, anche se io con un albanese, diciamo, tendenzialmente non ci litigherei. Tendenzialmente, poi. Ha capito, però quelli de spaccano. Attenzione, cross. A momenti, ma che fai? Ma esatto, abbiamo. Ognuno sta vedendo una partita. Una partita diversa. Sì, è così. Tra l'altro, in Germania, ovviamente, la pubblicità lo sponsor dello stadio è Lidl, ovviamente. Lidl, grande, l'altro giorno ci siamo andati e abbiamo ripreso la Kartoffeln Salad, che è una cosa tradizionale. Vogliamo parlare della Germania che noi abbiamo visitato in lungo e largo. Anche troppe volte. No, infatti no. Si fa schifo, ma io voglio sapere se solo una cosa e poi parliamo della Germania che abbiamo visitato in lungo e largo. Cioè, ma questo stadio della Lidl, cioè, ma i posti sono de merda, come capito? Ma guarda che la roba della Lidl non è de merda. Non è vero. Allora, nonostante vabbè, essere un semi discount, devo dire che la roba è superiore alla media della roba nostra, la vita nei viaggi sicuramente del Conad, sicuro, guarda, cioè veramente Marco, c'eri anche tu in Germania, ma non solo, ma noi ci andiamo anche oggi, ricordo solo i daini, prende la roba e la roba è buona, dai ragazzi, non c'è niente da fare. Comunque questa la dedichiamo a tutti coloro che posso pensano no. Dai, cantala, cantala tipo karaoke, va bene, sì, certo. Dai, facciamoglielo fare. Lo dedichiamo a tutti coloro che pensano che questa canzone sia bella. Le fotografie, chi mi ha convinto a portar qui le mie, che poi lo sappiamo, scatta le paranoie. Questo è il momento di radio più bella. Le foto accanto a noi, entrate nelle nostre vite, poi scappate di corsa per non tornare mai. Quanti in questi anni ci han deluso, quanti col sorriso dopo l'uso ci hanno buttato, ci hanno burrasco. lentamente ci scolli improvviso. Dai, guardi pure tu. Voi non capite un cazzo, è un po' come nel calcio, è la dura legge del gol. Basta, fai un gran bel gioco, però se non hai difesa gli altri segnano e poi vincono. Loro stanno chiusi, ma alla prima opportunità salgono subito e la buttano dentro a noi, la buttano dentro a noi. Da queste foto io non lo direi, che di tutta sta gente solo noi siamo rimasti uniti senza fotterci mai. Sull'amicizia, sulla lealtà ci abbiamo puntato pure l'anima. Deli meglio, mortacci, chi per noi lo farà? Quanti in questi anni ci hanno deluso, quanti col sorriso dopo l'uso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente ci squalli improvviso, dice voi non capite un cazzo, è un po' come nel calcio, è la dura legge del gol, fai un gran bel gioco però se non hai difesa gli altri segnano e poi vincono. Loro sanno chiusi, ma alla prima opportunità salgono subito e la buttano dentro a noi, la buttano dentro a noi. Vabbè, io direi che può bastare. Devo dire che tutto sommato rispetto al peggio che hai sempre dato, qualcosa dentro di te è migliorato, qualcosa, non so, da quel giorno in cui sei stata costretta a cantare qualcosa dentro di te è cambiato, e quindi questo effetto karaoke che replicheremo anche nella prossima puntata, probabilmente, certo. Con la stessa canzone. Certo. Dai. Fino a che non la farebbe. Fino a che non ti verrà la voce di Max Pezzali. Quanti colto riso. Basta. Dai. Comunque c'è stata una sostituzione. No, Cisco che si alza all'improvviso. Secondo me, io ho sempre pensato a Cisco che si alza, e Cisco dei Modena di Rambler. Ma chi è Cisco? Scusate. Non lo so. Vai, Michele, vai. Nel calcio è la dura legge del gol. Allora, l'Albania ha fatto la sostituzione e tutti gli albanesi negli spalti erano contenti. Che sono vestiti come i buffi, ma che c'hanno in testa? Ah, ma sarà un cappello loro, che cazzo ne so io. Perché è cappello albanese? Giusto, tradizionale cappello albanese. È la Zlatlokna. No, da noi nasce il Kelesh, il cappello della tradizione albanese. Nella città albanese di Kruja, a 40 km da Tirana, una delle tante botteghe. Scusate, stavo uccidendo una zanzara. Del mercato produce un cappello tradizionale chiamato Kelesh. È il copricapo che fa parte del costume nazionale. Ma c'è il calcio di rigore, il calcio d'angolo, non so che è. Un calcio. Niente, Michele, è tutto a posto, vai, vai. Calcio, È il copricapo. Però sono contenti gli albanesi, è questa la cosa bella, che solo lo so contenti. La famiglia Aguni ha tramandato con orgoglio alle generazioni più giovani i segreti del mestiere e vende ancora questi tipici cappelli di feltro. Vabbè, ma ci fregava? No, giusto. Io non lo so, sa tutti. A te le fregava, Gualdi? Cappello. Non so, la mia vita è diversa adesso. Ma tu ti sei documentato su qualcos'altro, sulle barbabietole, cose? No. Perché c'è molto da dire sull'Albania. Perché col fatto che questa sera siamo due di meno, diciamo che i content che avevamo li abbiamo finiti. Quindi mancano 20 minuti. Quindi dobbiamo riempire 20 minuti di vuoto. Se volete, faccio 20 minuti di karaoke. Così. No, c'è bastata. No, io non capisco. Non è pronto per questa cosa. Capisco che adesso sei esaltata da questa cosa, ma no. No, sono scappati tutti. C'è più nessuno. C'eravamo due ascoltatori. Sono andati via. Ma secondo me ci stanno. Ascoltate solo che c'hanno da fare. Lascia fare. Attenzione, c'è un contropiede dell'Italia a partire dalla propria metà campo. Bellissimo, guarda come contropiede. Michele, che cos'è il contropiede? È che faccio finta che la tiro a destra, invece la tiro a sinistra. Perfetto. E ve? Perfezione proprio. Ah, ma sopra. Perfection. Non avrei saputo dirla peggio, comunque. Va bene. Comunque, ma è così? Fai una domanda. No, non è così. Fai però una domanda a Gemini. Chiedi che come finirà la partita. Perché io adesso glielo chiediamo. Considerando che adesso sta. Vabbè, ma cioè, già te l'ha detto già prima. Che vuoi che ti dica? L'Italia è favoritissima. E l'Albania è una merda. Praticamente no, ha detto. No. Così. L'Italia sta vincendo. Contro l'Albania. Appunto, come pensi finirà la partita? Adesso ce lo dice proprio. Per specificare che stiamo al 70esimo, insomma, magari. Vabbè, mo secondo me Gemini non gli fa tutta questa differenza. No, sono programmi molto intelligenti. Poi tu li togli delle cose, non capisco. Dato che l'Italia sta vincendo contro l'Albania, è probabile che riesca a mantenere il vantaggio e a portare a casa la vittoria. L'Albania potrebbe provare a reagire, ma la difesa italiana si è dimostrata solida finora. Ma che dobbiamo fare? Tuttavia, il calcio è imprevedibile e tutto può cambiare in pochi minuti. Ah, perché devo fare? L'Albania potrebbe trovare il gol del pareggio o addirittura ribaltare il risultato. Ah, sta tirando. D'altro canto, l'Italia potrebbe aumentare il vantaggio e chiudere la partita. Cioè, vabbè, se mio nonno era per avere un quadro chiaro della situazione, ti consiglio di seguire la diretta della partita su Sky Sport. Link a sport.sky.it. Sì, è proprio democrazia cristiana, cioè proprio dalla serie. L'Italia potrebbe fare un altro gol, ma pure l'Albania potrebbe fare un altro gol. E quindi potrebbe anche pareggiare o perdere. E anche grazie al cazzo, sarei dire. Però insomma, questo è il meglio di quello che potevamo fare. Io direi che la riunione di Google la chiudiamo, tanto non è intervenuto nessuno, se no mi sembra. Ci hanno pisciati tutti. Anche inutile continuare, perché ah, che bello, facciamo Euroludica e poi tutti stronzi, perché poi diciamoci la verità, insomma, un po' tutti stronzi e questo a noi ci fa piacere, perché gli irriducibili sono quelli che stanno sempre qui sul pezzo. Perché magari la prossima volta contro chi giochiamo? Contro la prossima volta mi sa contro Spagna. La Spagna, so cazzi. La Spagna, se io sarò a fare interviste in giro per il mondo, parleremo di spagnolo. Però esatto, vi farò il karaoke anche da lontano. Va bene. Anzi, da lontano è anche meglio, perché possiamo chiudere in qualsiasi momento. No. Senza dirlo a nessuno. Certo, soprattutto a te. Tu gli diciamo canta. Continua a candere. E via dicendo. Insomma, l'Italia vedo che sta facendo di tutto per segnare. Ah no, Mister Zero però è riducibile, sta ancora là. Mister Zero, mi dispiace per te che ti sei dovuto subire questo caravoghe. Ma perché Mister Zero, tutto sommato, in fondo ci vuole bene. Penso che lui ascolti Runtime Radio per misericordia, proprio da una serie tipo poveracci se non ci penso io. Se non ascolto io a chi li ascolta. Allora, scrive poi di spagnolo e della turca Runtime by Night Doget. Eh sì, no. In caso di Italia Turchia. Quando c'è la prossima partita? Tra 4 giorni. Aspetta, non te lo dico, perché bisogna essere aggiornati e fare anche dell'informazione, giustamente. Giusto. Quando c'è Italia Spagna? Sempre a Gemini, mo ci risponde lei. Certo, sai, Gemini ormai è diventata la nostra assistente, dato che gli altri ci hanno pisciato, almeno abbiamo un nuovo conduttore che non ci abbandonerà mai. La partita Italia-Spagna si giocherà giovedì 20 giugno 2024 alle ore 21. Ok. Puoi trovare maggiori informazioni sul calendario delle partite dell'Italia agli Europei 2024 qui. Open. Link to www.open.online. Olympics. Link to olympics.com. A Noca. A chi? Oca. Oxa. Anna Oxa. Non lo so, ma che si legge in cirillico? Non si legge in cirillico. Intanto hanno inquadrato Baggio con gli occhiali da dietro. Questo è palesemente ubriaco. Sì. Il tizio che è stato inquadrato Baggio, vabbè, ma è stato anche picchiato da quella che stava davanti, che salutava. Quindi. Ma sì, poi tra l'altro è pure uno svantaggio, perché comunque in Germania è pieno di comunità albanesi, quindi è normale che ci sono più albanesi che italiani nello stadio. Più ubriaconi che... Una volta negli anni 70 sarebbe stato diverso, cioè sarebbero stati più italiani che albanesi. Il mondo è proprio cambiato. Non ci sono più gli emigrati di italiani di una volta. Esatto. Quando tutti gli operai italiani andavano nelle miniere in Germania. Ah, è vero. O in Belgio. Belgio. Poi invece gli albanesi venivano in Italia. No, stavano lì. No, gli albanesi non andavano da nessuna parte, rimanevano in Albanizia. Oddio, c'è un uomo morto, c'è l'arbitro che sta mandando a cagare qualcuno. E nel frattempo, cioè, tra l'altro, avete visto adesso la stinquadratura, ci sono italiani in mezzo agli albanesi, deve essere inquietante, tutto sommato. Ah, è vero, no, non so, italiani in mezzo agli albanesi. Sì, sì, sì, sono albanesi in mezzo agli italiani. Cioè, è strana sta cosa. Italiani in mezzo agli albanesi con rischio, insomma, di piazza una coltellata, quindi di vedersi spaccate bottiglie. Poi c'è uno che sta in tre che si chiama Mannagli. Mannaglia morte. Pure l'Italia sta per fare due sostituzioni con Spalletti che dà le ultime indicazioni. Tra l'altro, quella giacca grigia di Spalletti. Sono tutte così, se giacca. Quest'altro mentre che esce si scaccola l'albanese. E il ragazzino che sta entrando è contento. Che sta mio Dio, che emozione, emozione. Pensa se segna. Ah, questo è quello che sta uscendo. Entra Mannaglia dentro Mannaglia. Gli italiani pitturati in faccia. Tu li vedi? Ah, perché adesso vedi gli italiani. Ah. Fra un po' ti arriveranno. Eccoli. Io sono. Hanno dei strani animali. Io vado avanti. Guarda la bambina italiana. Guarda la bambina italiana. Vieni, vieni, bambina. Che schifo. Bella. Entra Cristiante. Entra Cristiante e l'altro non Cristante. Cristonante. Esatto. Cristonante ed esce il 10. Esce Pellegrini. Sarà Pellegrini, non lo so chi è. Pellegrini. Sto aspettando che entri Totti, insomma. Tanto Mister Zero sta scrivendo qualcosa in chat, dategli. Albania prova il tutto per tutto. Mannai attaccante. Scusa, Mister Zero, espertissimo. Non viene a fare adesso. Infatti, la prossima volta stai in diretta con noi. Attaccante entra per provare a mischiare le carte e dare l'infa una mischiare partita. Le parte alias buttarla in caciana. Questo è. La partita sta morendo perché ho fatto il karaoke. Anche Ugualdi sta morendo. Esatto. Sono con più questi, me stesso. Ma tutta la radio sta morendo. Con questi tuoi cambi l'Italia si chiude in centrocampo e toglie potenza offensiva. Ammazza tutte ste cose, sai. Grazie che ci dai contenuti per la trasmissione, perché noi non sappiamo. Beh, noi non sappiamo più. Allora, cioè, se fosse stata la Lazio, forse qualcosa sarebbe potuto dire. Se fosse stata la Lazio. Domanda molto. Anche perché molto tanta carino. Gente mi dice sempre: ah, ma tu che sei appassionato di calcio. No, a me del calcio non mi frega niente. Io vedo solo le partite da Lazio, quindi tutto il resto non esiste per me. Prego, c'è una cosa, c'è uno sponsor che c'è scritto alle spalle, adesso è stato tolto, c'è scritto CIE, però al contrario, speculare. Chi è? Ma chi che so? Cos'è questo telefono che è mio? È tuo? Io non sento nessun telefono. Che fa trrr, sì, certo. Che fa il attenzione, contropiede dell'Italia, seguiamocela. Contropiede dell'Italia sulla fascia sinistra, riconverge, passa indietro all'ala, cross al centro. E no, che più che costa al centro, niente. Purtroppo poi l'Albania ci porta fuori e si ricomincia con una nuova azione, sempre in territorio offensivo dell'Albania. Quindi abbiamo invaso l'Albania e niente, traccheggiano, trick e ballac, ma non si passa perché l'Albania è arcigna, in questo momento ci sta mettendo tutte le energie che fino adesso avrebbe voluto metterci, ma non ha potuto. E infatti questi due che sono entrati adesso li hanno mandati prima a bere e poi adesso potete entrare. Sono entrati e con la forza corroborante dell'alcol stanno cercando di trovare una soluzione, a dipanare questo. Cosa hanno bevuto, Pizzo? Hanno bevuto lo Slatmark, che è un liquore. Attenzione. Cosa? Attenzione, niente. Stiamo a guardare un'altra partita nel frattempo. Attenzione, mo lo vedrete. Scusate, se io sto più avanti di voi, che volete? Aggiornatevi anche un pochino. Aggiorna, Michele, aggiorna. Posso dire che comunque la qualità di questa nazione italiana fa veramente ride? Cioè, proprio non c'è un giocatore che dice, oh, meno male c'è questo. Ecco qua. Ma ci sta Pellegrini. Ma Pellegrini si è fatto ammonire subito. È un animale Pellegrini. Attenzione! Donnarumma para, perché brutta situazione. Tra l'altro trattenuta De Maglia. Che parata! Trattenuta De Maglia, avrebbe potuto essere calcio di rigore questo. Perché gli è salito sopra? Perché calcio di rigore? Perché gli ha trattenuto la maglia. Ma in realtà non è sufficiente per un calcio di rigore, però. Noi buttiamola sempre, facciamo polemica. Ha pure spinto via. Fatto bene. Ha anche guardato il malumore. Ma io penso che lui al posto suo avrebbe fatto la stessa cosa. Ma poi cioè, il calcio è uno sport di contatto, non è rugby, ma non è manco il calcetto, insomma. Ci vuole molto tanto. Il basket, ecco. Ehi, diciamo. Ti taglio la gola! Non è che cosa brutta di diretto, insomma, ormai abbiamo perso il controllo. Però funziona. Ma ti taglio la gola, il cane non si dice. Poi però funziona. Si dice ti sgozzo. Cioè. Esatto, bravo. Taglio la gola è così brutale. Adesso prendiamo tre pere dalla Spagna, perdiamo 1-0 contro la Croazia, l'Italia a casa già. Vabbè, ma oh, ammazza questa qualità di squadra così va. E io ho capito perché ti piace Sbano, quando fa scorti le trasmissioni di Sbano. L'ottimismo, la gioia è esatto, l'ottimismo è il sapore della vita. Uno ci prova, poi se perdi pazienza. Vedi, questo è quando giochi a pallone con amici tuoi che ti vogliono dal pallone e guarda. Non te lo do, vai, no. Comunque ricordiamo che durante le partite di calcio il pallone è dell'arbitro, quindi nessuno può portare via il pallone. Questo è una cosa. Questo lo dici tu. Importante, immagini. Cioè, no, il problema è che oggi non si può fare perché sono talmente tanti palloni in campo che... Però insomma, in un'epoca in cui il pallone era uno solo, e c'è stata un'epoca in cui il pallone era uno solo, cioè il pallone ufficiale della gara, stupiavi, attenzione, chi veniva benedetto, che faceva, perché doveva essere ufficiale perché era il pallone che l'arbitro decretava che era. Oddio, questo si sente male. No, ha preso un colpo. Servino, ciao Servino, come stai Servino? Darmian entra al posto di quello che se stava per morire. No, questo Darmian è italiano. Tolgono un albanese e fanno entrare un italiano. Infatti, per dare un maggiore. Infatti, Michele, cioè, proprio, ma neanche. Cioè, almeno usa la logica. Mi sono preoccupata che quello si stava. Ma non si stava a sentire male. Ha preso una botta. A chi avevo detto, sai, questo c'ha un infarto. Però no, è chiaro che non. Esce Di Marco. E poi, peccato perché era stato così bravo. E poi non è che se l'Albania finisce le sostituzioni. Molto felice perché dice che Di Marco è una merda, inguardabile, fuori dall'Inter. A posto. Ah, gioca nell'Inter? Pare. Sono contento che ci sia. Allora, cioè, sono molto contento che giochi. Come che cosa? No, stavo dicendo che comunque non è che se l'Albania finisce le sostituzioni e un giocatore dell'Albania si fa male, allora gli dammo uno dei nostri. Sì, cioè. Invece io stavo, capito? Ma io vabbè. Giochiamo la carta amicizia. Giochiamo la carta, la quinta colonna, cioè tu metti uno dentro che... Ma non sai chi, quello è il dubbio, che non sai chi è. Che gioca con gli avversari. Spalletti, scusa, sono Solvino, mi presti un giocatore? Poi te lo ridò. Sì. Cross fondo, certo. E siamo andati vicino al gol. Ma dove? Quando? Ecco adesso sì. Ti dico che sto avanti. Sto troppo avanti. Giorno, sto troppo avanti. Non so come si fa. Aspetta, devo fare ESC. Ma che ESC? Devi fare F5. Zitto che sto su. Su cazzo imperio. Che schifo, cazzo imperio. Che schifo. Il tram è finita la partita, come c'è la pubblicità. Che è ultimamente la cosa più interessante, tra l'altro. Beh, sì, devo dire che questa partita, forse perché insomma, la stiamo vivendo un po' così. Mancano 7 minuti più recupero alla fine, dove l'Italia vince 2-1 sull'Albania. E insomma, diciamo che se l'Italia avesse fatto un altro gol, sarebbe stato meglio. Ecco, diciamo. Modo di porsi un po' più, come posso dire, in vantaggio, perché sai che il calcio è fatto così al 93esimo. Tanto c'è un giocatore d'Italia che ritiene di aver segnato. Dalla pubblicità delle gomme, che era bellissima, tra l'altro. Vero. Allora adesso noi ci siamo anche noi, siamo tornati. Siete tornati. Siamo nel futuro. C'è un giocatore d'Italia che ritiene di aver subito fallo e si è adirato con l'arbitro. E siamo al minuto 84:29. Tu che minuto sei? 84:29, io invece sono al minuto 84:37. Ok, noi 37 adesso. Ok, quindi finalmente ci siamo sincronizzati nello spazio e nel tempo. Bastava poco, penso. Basta poco, che ce l'ho? Che ce l'ho? Adesso l'Italia sta attaccando verso la propria porta perché cerca di dare un po' di sprint alla partita. Ma chi è questo gatto bellissimo? È il gatto di Mister Zero. Ma che bello! Insomma, specificate che c'è il gatto su Telegram, insomma, se no. Sulla diretta runtime su Telegram, se volete scriverci oppure mandarci audio messaggi dicendo il vostro pronostico per questo campionato europeo, mandateci un audio messaggio e lo trasmetteremo subito in mantinente. Mancano 4 minuti alla fine, cioè 5 minuti alla fine della partita, dei tempi regolamentari. Chissà quanto daranno di recupero. 3 minuti. Beh, 3 minuti. Beh, considerando che hanno fatto un sacco di sostituzioni, 3-4 minuti sicuri, minimo. Tanto stanno prendendo a calci il povero giocatore albanese, che non l'ha presa bene. Siamo sicuri che sia albanese, non un italiano in prestito? Esatto. Chi può dirlo? Sai che potrei fare io? Mi viene in mente un format. Vado in giro mentre c'è la partita, tu metti la canzone, io la faccio cantare alla gente in giro per caso. Ma che bello! Che figo, nessuno ci ha mai pensato. Penso che non lo faremo comunque. Dai! Anche perché come gliela fai sentire la canzone alla persona per farla? Tu la metti alla radio e di telefono e quando sento la canzone io... Ah, ok, ok. Canto. Sì, tu canti davanti alla persona, tu fermi una persona e gli canti davanti. Faccio cantare alla persona. In perfetta sincronia. E quelli decorcano. Potrebbe dopo essere un format interessante. Comunque è uscito quello che ha fatto il gol dell'Albania, che ci hanno creduto, secondo me ci hanno creduto per un attimo. Vabbè, però cioè, dopo 25 secondi fai un gol, cioè, contro l'Italia oggi, c'è qui, ne famo un attimo. È fatta. Basta arbitro, chiudi. Stacca tutto. E invece no. Però attenzione, Mister Zero mi sa che non è d'accordo. Comunque, su cosa? Sulla cosa del radio, cioè l'FBI che ci ascoltano. Non capisco questa immagine. La CIA durante il format di Michela. Vabbè, capirai. Allora tutto il resto delle 24 ore. Potrebbe essere un'idea, capito? Vado in giro, coinvolgo la gente. Tu fermi la gente, senta signora, le devo cantare una canzone in faccia. No, devi cantare lei. E tu c'hai il coraggio di farlo. Ma dai clienti, cioè le signore, le faccio il 10% di sconto se canta. Canto. Di sera devo rimediare qualcosa per convincere la gente. Tipo la cocaina. No, io non ho mai usato la cocaina. No, infatti la devi far usare agli altri. Ma a parte che la cocaina non si usa. No, si tira anche quella, esatto. Si lancia, anzi non si mai, lancia. Non ho mai tirato la cocaina. L'hai mai lanciata, però. No, ecco. Che tu lanci le cose, abbiamo detto. La vita di birra, il coraggio lo trova, ma pure una pinta, secondo me, non ce la posso fare. E intanto Salvino è entrato in gara pure lui, gioca pure no, lui. No, è che è talmente la carta presidente. È talmente fomentato che giustamente vuole accelerare la rimessa da fallo laterale dell'Italia, che invece l'Italia giustamente gli fa comodo perdere qualche secondo di qua, qualche secondo di là, perché più perdiamo tempo e più ci avviciniamo. Però l'Italia, ma poi recupero io danno lo stesso. Eh sì, vabbè, però comunque tu il tempo lo perdi uguale, cioè nel senso non è che recuperano ogni cosa che tu fai, cioè nel senso se recuperi il gioco, cioè se tu perdi tempo in gioco è comunque tempo che scorre quello, no? Perché non è che esiste il tempo effettivo. No, guarda, è stata a passare la palla, io questo non ve lo conto, non ve lo conto. Ma non è neanche che pure il fallo laterale, non è che esiste il tempo effettivo come a basket, che quando il gioco è fermo il tempo è fermo, cioè a calcio il tempo va avanti comunque. Poi diciamo che il recupero viene dato per convenzione, ogni numero di sostituzioni sono 30 secondi e insomma vabbè, cioè sono tutta una serie di regole per cercare di codificare il più possibile quello che succede in campo. Intanto vediamo che l'Italia comunque pressa alta nonostante che sta vincendo, perché dice non si sa mai, qui se molliamo questi vengono. Se sbagliano tira sbucia, se c'è da tutti, perché io ho visto veramente partite che magari si distraggono mentre tipo pensano all'orso che balla, al 97esimo Italia-Germania del 2006, la semifinale. Sì, chi ha lanciato, che è i supplementari grossi. Mamma mia, regà. Mamma mia, regà. Madonna, come ci sono andati vicini. Hanno occupato la porta. Si è incazzato perché vuole il calcio d'angolo, lo so che vuole. Hanno occupato la porta e il portiere è uscito. Mamma mia, come ci sono andati vicini, ragazzi. Donnarumma, grande intervento. Guarda come cicca la palla. No, vabbè, ma questo si è giocata bene. Cioè, nel senso, non è poteva fare più da tanto. Donnarumma, mi dirai che qui la fortuna è che lui nel pallonetto non ha beccato la porta, perché sennò gli ha beccata la schiena. Ma noi ha sfiorato il gol, l'aveva detto lui. Qualcuno ha fatto gol? No, non ha fatto gol. No, era il replay della reazione dell'allenatore dell'Albania al gol mancato. Ah, non gli ha dato il calcio di rigore, vedi? No, calcio d'angolo. Non gliel'ha dato. No, infatti lui protestava per quello, perché era calcio d'angolo. Era palese, però. Palese. Vabbè, però magari loro non hanno visto. 4 minuti di recupero. 4 minuti di recupero? 30 secondi. Ok, poi dopo alla fine della trasmissione vi facciamo sentire la canzone di Gualdi, però la versione quella giusta. Quella vera. Perché lui si è indignato che abbiamo messo la versione sbagliata, capito? Quindi, e non si fanno queste cose. Sono cose sbagliate. No, non si fanno. Comunque... Oddio, c'è un uomo in campo. Questo? Ah, ti rubo. No, mitico! Grande, grande. Ah, complimenti allo Stewart che è cascato da solo. Pure lui è cascato da solo e mo lo corcano de botte. Poi c'è andato il giocatore dell'Albania, perché secondo me adesso è un parente suo. Oh, Francesco, ma che cazzo stai a fare qua? Ti sei scontato la golfino. E infatti c'ha la bandiera albanese. Questo adesso è sicuramente mezzo terrorista. No! Ma poi perché fanno... Cioè, nel senso, tanto... Vabbè, lui sta a far coglione, però non si rende conto, innanzitutto, che non entrerà più in uno stadio in tutta la sua vita. Ma perché l'ha fatto? E che mo lo corcano pure dei botte, perché questo adesso tu lo vedi, poi quando lo portano dentro c'è tutta la parte che non vedi, capisci? Cioè... In cui arrivano gli steward tedeschi che picchiano un po' il mare. No, ci pensa la polizia direttamente. No, ma ha dato entrato poi? La polizia non picchia. Per comunque lo conoscevano, tipo una mesana. Fa picchiare, ma sì. Sì, loro lo conoscevano, quello gli è andato a dire qualcosa. Quello è Emir il Brigante, conosciuto esatto, proprio esatto. Da tutti, insomma. Tanto l'Italia continua a fare sostituzioni. Anche Mister Zero ci segnala questa invasione di campo e le botte che si saranno a dare. Sì, sì. Ah no, non è che se saranno a dare, sono 15 contro 1. Ma poi continua a far credino lui. A me poi questa gente mi sta proprio sul culo, posso dire. Vabbè, poi io se metto in modalità sopravvivenza, ma comincio a correre, magari non mi pigliano. Non si sa che gli dice la testa. Quello gli dice la testa, che è l'arcol che c'ha dentro. Ma se fosse stata una tifosa nuda, probabilmente. Sarebbe stato meglio, naturalmente. Sarebbe stato meglio, a parte questo, non avrebbe preso schiaffi, però. Questo non lo possiamo dire. No, vabbè, no, infatti non è detto. Questo non lo possiamo dire, anche perché è capitato diverse volte, insomma, che ragazze nude sono entrate e hanno fatto un'invasione. Hanno ragione a picchiarlo, sì, infatti, vabbè. Diciamo che così, poi. Anche perché mo sti 4 Ma come minuti... si chiama questo giocatore italiano più scuro del normale? Perché bisogna un po' entrare nelle grazie di Vannacci. Si chiama Scuro. Florigno, come si chiama? Io non ci voglio entrare nelle grazie di Vannacci. Cioè, devi entrarci. Cioè, no, ormai sei in questo mondo, no. devi fare amici. Come si chiama Florigno? No. Florigno, non lo so, non ho capito perché c'era la... Anche c'era la Magna Ciancicata, poi falla, soltanto un eurodeputato. Forse Giorginio? Fa niente. Non lo so. Meglio in galera che amico dei Vannacci. In galera in mezzo ai fasci, giusto? Uguale. Fai bene. No, i fasci stanno fuori, mica li mettono in galera. Detto chi ci sta allora? Detto ci stanno i comunisti. Allora va bene, mica, fatta restare. Sì. E detto te fa parte della storia, no? La storia di questo momento importante. Devo dire, tutto sommato, posso dire che se uno non facesse il tifo per l'Italia, un po' mi dispiace per l'Albania, perché tutto sommato l'impegno ci hanno messo. Hanno anche segnato un gol nei primi 25 esatto. secondi. Esatto, e tra l'altro se tu hai faticato così tanto contro l'Albania, figurati quando vai a giocare a Caspar. Si chiama Foloruscio, giocatore del Verona. Ah, Foloruscio. Pensate che Foloruscio è un giocatore della primavera da Lazio, che è, insomma, tifosissimo della Lazio, che la Lazio si è fatto sfuggire così tempo fa. Così, però, insomma, magari un giorno tornerà Foloruscio. Incredibile che sia arrivato in nazionale. Tornerà Foloruscio. Ma Foloruscio comunque sono passati 4 minuti. No, Foloruscio è romano, però non so che la famiglia di che origine c'ha. Forse essendoci stato l'invasione di campo. L'invasione di campo. Sì, che sono passati 4 minuti. Vabbè, magari in altri 30 secondi, giusto per dire. C'è stata l'invasione dei campi. 10 secondi per gli schiaffi, altri 10 per i calci in culo, esatto. E poi così. Io penso che questa qua dell'Albania in questo momento è l'ultima azione, e te ma ci segnano, perché potrebbe succedere. Non è che l'hanno segnato grazie a quello che ha fatto l'invasione dei campi. E poi chi te l'ha detto che sono passati 4 minuti? Sono passati quasi 5 minuti. Appunto. Bim. Orco 2. Ti ho detto che a momenti segnano, ragazzi. Però qui l'arbitro dovrebbe interrompere la partita, sennò è uno scandalo questa cosa, eh? Mamma mia, raga, meno male che non ci piano. Perché qui si tratta proprio che non ci piano, eh? E secondo me qui in questo replay Donnarumma ha detto Crampi, mannaggia li pesci, ha detto, secondo me, ecco qua, finita. È bello vedere i giocatori d'Italia che c'hanno i crampi. Bene. Sono quelli che hanno fatto, però sono quelli che sono entrati da poco. Esatto. Detto questo, ragazzi, è finita la prima partita del campionato europeo di calcio. I germanesi stanno per entrare al campo. Per nazione, lì dovrà intervenire la polizia, raga, che vedevo fa. Stanno proprio pronti per buttarsi dentro. Ma non credo che lo fanno, perché è finita la partita, insomma. Comunque l'Italia vince la prima partita contro l'Albania 2-1. Non è un risultatone, però insomma poteva andare anche peggio. Posso, Michela, meritatamente, secondo la tua competenza calcistica, l'Italia ha vinto meritatamente? Vinto meritatamente. No, si è proprio rotta le palle mentre giocava l'Italia. che palle. Nonna, che ho palle fatto il secondo gol, ma non me lo meritavo. No, che palle. Stanno io, che hai fatto, mica, tutte queste icone, cosa sono? Anzi, mo so pure poche. Va bene, io ringrazio Marco Gualdi. Ciao, e le sue informazioni. L'Italia non ha vinto meritatamente, ma l'importante non è meritare la vittoria, ma vincere. Ma è vincere, meglio. Esatto. Così. Ringrazio Michela De Paola con le sue conoscenze calcistiche e soprattutto canore. Soprattutto. Ringrazio me stesso, Simone Pizzi, e ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato per questo primo episodio degli europei di calcio dell'Italia. Ci vediamo giovedì sempre alle 20:50 qui su runtimeradio.it, speriamo anche con gli altri membri. Gli altri membri. E mo noi ci andiamo a bere una bella birrozza. Detto questo, vi faccio ascoltare la canzone di Gualdi nella sua versione originale. Grazie a tutti, ragazzi. Ci vediamo giovedì. Grazie a tutti gli ascoltatori. Ciao. Quel momento, mano destra sopra il cuore, mi si smuove il sentimento, l'ansia ora è il mio motore. Fuori il bandierone, in cantina da 4 anni, va attaccato sul balcone, spero di non fare danni. Ma se devo essere sincero, io del calcio sono una sega, da domani mister vero, fino ad oggi non mi frega. Ma se devo essere sincero, io del calcio sono una sega, da domani mi servirò, fino ad oggi non mi frega. Non conosco il fuorigioco, non parliamo dei rigori, del vario ne so poco, ma che so i supplementari. Ma non voglio